Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera e buona domenica a tutti voi. Ultima dell'anno, per quanto almeno con il campionato, poi ci saremo comunque anche nelle vacanze a farvi compagnia, ovviamente non su temi di cronaca calcistica, una cronaca calcistica che non ci sarà se non per quanto riguarda il mercato. Valeria Bernardi in regia, Giorgio De Luca in redazione, c'è anche Rosa Centralino pronta per le vostre telefonate 800 24 00 24, i vostri messaggi che invece mi arrivano direttamente 349 238 6666, ma bando alle ciance, tanto per le ciance il tempo c'è. Diamo subito sulla sostanza, e cioè sulla cronaca, anche perché c'è un gol in questo momento, e allora ve lo faccio raccontare subito da Giovanni Capuano, nostro inviato al telefono, per oggi insieme a tutti gli altri risultati che stanno maturando, e ad una Juventus che ha lasciato il Milan in testa alla classifica, giusto lo spazio di poche ore, almeno così sembra. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Beh, il gol che è arrivato qualche istante fa, il gol del 3-1 del Lecce a Parma, un gol in contropiede segnato da Cuadrado, gol del 3-1, Lecce che aveva ribaltato con una doppietta di Di Michele a inizio ripresa il vantaggio su rigore di Floccari, con cui si era chiuso il primo tempo. Quindi Lecce 3, Parma 1, doppietta di Di Michele e Cuadrado per i salentini, gol di Floccari nel primo tempo su rigore per il Parma. Benissimo, andiamo anche con gli altri risultati, Giovanni. Allora, gli altri risultati ci dicono che la Juventus è sul 2-0 con il Novara, Pepe dopo 4 minuti, poi tantissime occasioni sbagliate, soprattutto da Del Piero, schierato titolare e tolto dopo 63 minuti, poi un mezzo miracolo di Buffon su Robino e alla mezz'ora del secondo tempo il raddoppio di testa di Quagliarella, che non segnava da un anno esatto, dal 19 dicembre contro il Chievo, poi all'Epifania, all'infortunio. Poi vince l'Inter 1-0 a Cesena, gol di Ranocchia di testa al 18° del secondo tempo, 2-0 del Catania sul Palermo, alla mezz'ora del primo tempo su punizione Lodi, al quarto d'ora della ripresa su calcio di rigore Maxi Lopez per il 2-0, ed è 1-1 la sfida tra Genoa e Bologna nel primo tempo al 39° Rossi, il pareggio al 6° del secondo tempo Ramirez, Bologna vicinissimo al 2-1 con Di Vaio che ha colpito un palo sull'1-1. Perfetto Giovanni Capuano, poi ci racconterai, non appena la cronaca ci darà un po' di respiro, anche perché il Napoli sta facendo un grande affare con l'acquisto che verrà perfezionato nelle prossime ore, un giocatore che conosci molto bene. Dunque la cronaca dice anche, per la verità, che questa mattina, pronostico abbastanza scontato, che dite, ne abbiamo parlato anche ieri nel Tempo di Sport, con il Barcellona, se provi a giocare a pallone, soprattutto se hai la presunzione dei brasiliani, del Santos di Neymar, non può che finire 4-0 come è successo nella mattinata italiana a Yokohama. Ovviamente in gol Messi dopo 17 minuti per aprire, e Barcellona che chiude il conto in un pugno di minuti per una partita che non c'è mai stata. Xabi 23esimo, Fabregas di testa al 44esimo e arrotonda lo stesso Messi al 37esimo della ripresa. Dunque il Barcellona prende il posto dell'Inter in cima al mondo, cioè alza questo trofeo, che poi sia la Coppa del Mondo per club o il Mundialito, come sostiene qualcuno, se volete ditemelo voi, 800 24 00 24, numero verde. Di certezze non ce ne sono tantissime, se non che la Juventus insomma, ha giocato un grandissimo primo tempo, non ha forse il killer instinct, almeno questo era il mio sospetto prima del gol, bellissimo tra l'altro di Quagliarella, ha fallito una montagna di occasioni da gol, e il Novara stava cominciando a crescere, però è una Juventus che vede lievitare anche la sua autostima. Oggi Conte ha concesso campo a Del Piero, così a Quagliarella, che invece è tornato al gol. Dunque tutto funziona in questo momento per la Juventus, che ha lasciato il Milan, come dicevamo, in testa alla classifica per questa illusione ottica del gioco degli anticipi e dei posticipi per un pugno di ore. Milan piuttosto svogliato, non so se l'avete visto ieri sera contro il Siena, ha giochicchiato, poi ha trovato il gol nella ripresa con il solito preziosissimo Nocerino. Ricordo il costo di Nocerino al Milan, 500.000 euro, tanto per intenderci, e lasciar capire anche un po' di cose sulla, tutto sommato, sulla bravura in termini di mercato dei collaudatissimi uomini del Milan, che stanno provando ad andare a prendere Tevez. Anche lì parliamone. Berlusconi ieri ha detto: ma secondo me stiamo bene così, abbiamo giocato una grande partita. Lui ha visto una grande partita, in settimana il presidente ha detto altre cose. molto divertenti per la verità, abbiamo anche un file e poi lo ripeschiamo perché sarà, credo, argomento di divertente e divertita discussione. Ebbene, il Milan ha giochicchiato e ha battuto 2-0 Siena con il gol di Nocerino e poi il rigore di Ibrahimovic e si è preso la testa della classifica per un pugno di ore, insomma. Di certezze non ce ne sono tantissime, stasera abbiamo due super partite, come ben sapete, come la sfida tra Lazio e Udinese, che comunque potrebbe valere per il primato, naturalmente per l'Udinese, abbiamo Roma-Napoli che potrebbe valere invece per il panettone, per Luis Enrique. A proposito di panettone, non so se avete visto le immagini o le fotografie del siparietto dell'allenatore del Palermo, Davis Mangia, che appunto inscenava questo rito con un po' di anticipo e molta ironia. Ecco, se c'è una certezza in questo campionato è che il Palermo fuori casa davvero non esiste. Il Catania è una squadra estremamente seria, però sta vincendo grosso modo a mani basse il derby siciliano e il Palermo continua in questo suo bizzarro record, unica squadra europea a non aver mai segnato un gol, lo straccio di un golletto in trasferta, e siamo alla sedicesima che si legge quindicesima e finalmente in settimana le cose torneranno a posto con il recupero di quella famosa prima giornata. Altre novità non mi pare ce ne siano dai campi, ma comunque Giovanni Capuano è collegato e gli daremo la palla se succederà qualcosa. Intanto saluto e ringrazio Giacomo Bagnasco. Grazie a te Carlo, così facciamo, buon pomeriggio a tutti. Facciamo diventare bislungo il pallone parlando un po' parlando di cosa è successo a Genova, caro Giacomo, per te tifoso genoano in questo momento, guarda il caso, ti do la palla ovale, invece torniamo subito a quella tonda. Capuano. Ha segnato Pratto il gol del 2-1 per il Genoa, Pratto che era già stato l'uomo dell'assist per la rete dell'1-0 siglata da Marco Rossi nel primo tempo, adesso al 40° della ripresa l'ha messa dentro direttamente lui, dunque Genoa in vantaggio per 2-1, è stata una conclusione, un diagonale dal limite dell'area di rigore, un destro sul palo lontano, niente da fare per Gille. Bologna castigato forse oltre i suoi demeriti, un gol importantissimo per Malesani, uno di quelli la cui panchina insieme a quella di Mangia era assolutamente poco salda in questa vigilia di Natale. Ora è arrivato il 2-1 di Pratto. Grazie Giovanni, su intelligente tocco all'indietro di Caracciolo, questo destro un po' sporco per la verità di Pratto, però pesantissimo per il Genoa. Sei contento Giacomo? Sì, sono contento, oltretutto il tocco all'indietro andrebbe benissimo anche per il rugby. Bravo, esatto. Sono contento per Pratto, detto il cammello, per le sue movenze un po' sgraziate, che però è un giocatore che non è elegante. E sono contento, a proposito di giocatori che danno tutto, anche per Marco Rossi, che non a caso è anche il capitano preferito di mio figlio. E a buoni gusti, perché è veramente l'anima del Genoa. Senti, con la palla bislunga invece cosa è successo? Versante ovale sono successe diverse cose che riguardano un po' tutta la settimana. Possiamo partire forse dalle cose internazionali che sono comunque importanti. Gli All Blacks hanno un nuovo allenatore che è Steve Henson, ex vice di Graham Henry, che giustamente si è ritirato dopo aver vinto il mondiale, di più non avrebbe mai potuto fare. E poi c'è l'addio all'attività con la nazionale da parte di Johnny Wilkinson, e quindi è un grande personaggio del rugby che lascia, almeno per quanto riguarda appunto la nazionale inglese, mentre giocherà ancora nel Tolone in Francia, Tolone che ha contribuito ad allungargli un po' la carriera. E per quanto riguarda invece le coppe europee, sono arrivate solo sconfitte in questo fine settimana, è una costante per quanto riguarda la Challenge Cup, e anche Jacques Brunel ha sollevato un po' il problema dicendo che le squadre di eccellenza si trovano ormai ad affrontare un livello troppo alto per loro probabilmente, mentre per quanto riguarda l'Heineken Cup due sconfitte ancora con connotazioni diverse. Il Benetton rinuncia alle speranze di qualificazione perdendo a Biarritz 29-12, aveva concluso il primo tempo in vantaggio 12-3 ma anche in favore di Vento, e poi è stato penalizzato anche dall'espulsione di Minto, ha giocato quasi un'ora con un uomo in meno. 29-12 a Biarritz ci può stare, sì. È andata meno bene per gli Aironi, battuti 46-20 a Monza dall'Ulster, hanno segnato 3 meter, hanno fatto vedere qualcosa, però è una squadra a cui manca sempre il almeno in Heineken quest'anno manca sempre la capacità di quantomeno di essere veramente in partita. Il primo tempo è finito 27-3 e gli Aironi sono l'unica squadra ancora a 0 punti in Heineken. Intanto oggi comincia l'ultimo raduno del 2011 della nazionale. Sì. Brunella ha cominciato a chiamare anche dei giovani, ci sono questi ragazzi sotto i 20 anni come Udiete, Campagnaro, Morisi, Esposito. Ha già detto il CT che per questo 6 Nazioni è molto probabile che giochino gli atleti che sono arrivati anche ai mondiali, ma si sta lavorando anche per il ricambio generazionale, come è giusto che sia. A questo punto è ora di vedere se alle spalle, se dietro questi giocatori che ci fanno compagnia grosso modo da un decennio c'è qualcosa su cui è possibile costruire. Non è una scelta insomma facoltativa, è un'esigenza per il rugby italiano. Io ringrazio Giacomo Bagnasco, c'è un gol ed è a Parma, dove il Parma accorcia le distanze ma è sempre sotto, segna Morrone 3-2, poi Giovanni Capuano dopo il traffico ci racconta tutto. Strade in diretta. Sull'autostrada Roma-Fiumicino si incontrano code per un incidente tra Via della Magliana e Parco dei Medici verso l'aeroporto di Fiumicino. Traffico intenso alle porte di Roma, lungo il tratto urbano della 24 ci sono code tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Nessun particolare disagio sul resto dei percorsi, attenzione però alla pioggia sulle pianure tra Lazio e Campania e lungo le coste marchigiane. Deboli nevicate sull'Appennino in Abruzzo, sulla 24 e sulla 25 e sul raccordo Sicignano-Potenza tra Tito e Potenza. Sta nevicando anche sulle Alpi al traforo del Monte Bianco. Infine, per lavori si anticipa questa notte la chiusura della 14 Adriatica dalle 22 alle 6 in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra Marotta e Senigallia. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Ancora parziali mentre ci avviciniamo al 90esimo sui campi. Catania 2, Palermo 0, Cesena 0, Inter 1, ma c'è stata una grande occasione per il Cesena poco fa. Il Genoa vince 2-1 col Bologna, la Juventus 2-0 col Novara e il Lecce 3-2 a questo punto a Parma, vero Giovanni? Sì, eccomi Carlo. Allora, il gol del Lecce intanto è di Pellè. In realtà è una mezza papera di Gabrieli. L'occasionissima del Cesena è stata per Ghezzal, una girata a colpo sicuro a non più di 5 metri dalla linea di porta. Ci ha messo il piede Giulio Cesar. Grande parata, grandissima parata. Oggi abbiamo visto questa grande parata di Giulio Cesar, ne abbiamo vista una altrettanto difficile, forse ancora più difficile, a Torino sull'1-0 di Buffon su un colpo di testa nell'angolino di Rubino. Quindi le due superstar del guantone che oggi comunque hanno regalato punti o stanno regalando punti all'Inter e alla Juventus, no Giovanni? Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio anche che questa sia la risposta a chi sostiene in realtà che in un ruolo delicato come quello del portiere alle volte le riserve possano fare esattamente come i titolari. Era il discorso l'anno scorso di Storari messo in concorrenza, in competizione con Buffone, e in parte lo è il discorso per Giulio Cesar, sul quale in estate l'Inter ha pensato anche di fare un'operazione in uscita. Giulio Cesar in questa fase della stagione è un uomo fondamentale con le sue parate nell'aiutare l'Inter in questo tentativo di risalita. Sicuro. A proposito di operazioni in uscita e in entrata, spiegaci perché il Napoli sta facendo un grande colpo. Il Napoli sta facendo un grande colpo perché Eduardo Vargas è un giocatore forte, è un giocatore che sta esplodendo proprio in questi momenti, lo dicono i numeri, perché ha segnato 11 gol nella Coppa Sudamericana in 12 partite, per intenderci è come se avesse vinto da solo l'Europa League, quindi stiamo parlando comunque di una competizione importante. È un giocatore che più che Alexis Sanchez, a cui è stato accostato perché è cileno e perché diciamo è la stella che è nata dopo Sanchez nel calcio cileno, assomiglia un po' più a Lavezzi. È un giocatore che ha lo stesso procuratore di Lavezzi e questo è il motivo fondamentale per cui alla fine è andato a Napoli e non all'Inter, anche se l'Inter negli ultimi giorni, dopo aver seguito il giocatore per oltre un mese ha provato a inserirsi, ha mosso, si dice da Sud America, qualche pedina, ha mosso anche Zamorano, che è un giocatore, un ex giocatore, un nome comunque che nel calcio cileno conta molto. Alla fine però il Napoli paga Vargas qualcosa più di 17 milioni di dollari, siamo intorno ai 13 milioni di euro. A quelle cifre, noi se ti ricordi ne avevamo parlato un paio di settimane fa, in questo momento l'Inter non è competitiva sul mercato se non per quelle che può ritenere delle certezze. E comunque ti chiedo con cognizione di causa, perché ho visto che ne hai scritto anche sul sito di Panorama, e quindi è un giocatore che conosci con grande dovizia di particolari. Il Napoli dunque secondo te ha fatto per quei soldi un affare? Io ritengo che il Napoli abbia fatto un grandissimo affare, intanto perché porta a casa un giocatore molto forte. Chi avrà la fortuna e la perizia di seguirlo nei prossimi mesi vedrà che è un giocatore capace di fare i gol meravigliosi come quello nella finale di Coppa Sudamericana, che in questa settimana... Scusa, ti interrompo Giovanni, tu mi dici assomiglia a Lavezzi, è un giocatore che vede un po' più la porta rispetto al Pocio, però che sta giocando una stagione straordinaria, e sto dicendo delle banalità, però mi pare anche numeri alla mano che sia un giocatore che la porta la vede un po' di più. Assolutamente, ma difatti io credo che la grande mossa del Napoli, oltre a portare a casa un giocatore di sicura prospettiva e che certamente in questo momento ha dei costi comunque che sono abbastanza contenuti a livello di ingaggio, sia quella di darsi la possibilità da qui a qualche mese di poter anche eventualmente monetizzare sul mercato uno dei suoi uomini davanti, uno dei suoi uomini pesanti, in questo caso uno fra Hamsik e Lavezzi più che Cavani. In realtà poi secondo me la vicenda di Vargas è una vicenda che deve far molto riflettere su quello che è l'Inter in questo momento. Intanto ti segnalo che c'è il pareggio del Parma, 3-3, ha segnato Galloppa, 2 minuti oltre il 90°, quindi partita davvero emozionante a Parma. 3-3 in questo momento, il Lecce si era portato sul 3-1 quando mancava poco meno di 10 minuti alla fine di questa partita, adesso 3-3. Grazie Giovanni, darò io i finali, tanto siamo nel tempo di recupero. Io ringrazio Giovanni Capuano che ci ha tenuto il polso delle partite, ci ha raccontato anche di Vargas facendo felici i tifosi napoletani. Io vorrei andare però salutando e ringraziando una penna importante come quella di Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera. Vorrei parlare di un'altra notizia della mattina, che non è quella scontata del Barcellona che trionfa contro il Santos, ma è quella di Max Blardone che trionfa sulla Gran Risa. Ciao Flavio. Salve a tutti, buonasera. Dunque, io leggevo il tuo pezzo di oggi sul Corriere della Sera dove scattava il paragone tra lo sci italiano e la Force India. Qualche volta vince anche la Force India. Almeno nello sci. Esatto, in Formula 1 non è ancora capitato, c'è andato vicino Fisichella, ma non è ancora capitato. E beh, era il paragone fatto da Claudio Ravetto, un DT che oggi probabilmente potrà tirare un sospiro di sollievo dopo che ieri insomma aveva masticato un po' amaro per l'ennesima prestazione non positiva dei nostri velocisti, anche se poi in realtà la discesa della Gardena è stata cancellata per il troppo vento. Però diciamo che se ci fosse stata se la gara fosse stata completata non avremmo fatto una bella figura. Invece però oggi, Flavio, posso chiederti una cosa? Sì, posso chiederti una cosa, ma è un segnale oppure è semplicemente un numero di un atleta che vive magicamente quella pista? Cioè è estemporaneo questo segnale oppure possiamo sperare di non essere, se non la Force India, insomma, se non la Red Bull, quantomeno la Ferrari o la McLaren? Dunque, bisogna distinguere innanzitutto. Diciamo che il potenziale maggiore in questo momento nello sci italiano è nei velocisti, segnatamente uno come Innerhofer che deve solo ritrovare la migliore condizione fisica dopo la caduta che ha avuto all'inizio di novembre, soprattutto la brutta botta alla testa dalla quale si sta rimettendo, anche se mi dicono i medici che non è semplice riprendere da un infortunio del genere. L'impresa di Blardone è effettivamente è un po' difficile da decifrare, nel senso che Max ha, come ha dimostrato anche nel passato, le potenzialità per vincere in tanti posti, in varie situazioni, soprattutto se ci sono condizioni di ghiaccio, e oggi tra l'altro non erano le condizioni ideali per lui. Però era reduce da un periodo veramente negativo, dopo il quale tanti pensavano che fosse veramente alla fine come atleta. oggi ha avuto questo colpo d'ala, infatti l'abbiamo un po' soprannominato uno zombie, un Highlander, sperando che poi l'Highlander possa andare avanti anche nei prossimi anni. E a 32 anni diciamo che c'è gente come Kusch che ne ha ben di più e che è ancora competitivo, per cui insomma da qui in poi cercheremo di capire qualcosa di più su di lui. Intanto accontentiamoci di questo risultato assolutamente imprevisto e sorprendente, perché semmai oggi quello atteso era Simoncelli e Noè Nomblardone, e poi vediamo cosa succederà. Tante volte Max da favorito ha deluso, altre volte invece quando non era atteso ha dato il meglio di sé. Di sicuro in questa specialità è difficile battere uno come Ligeti, oggi si è riuscito sul campo e questo è il suo grande merito, però l'americano è largamente il dominatore della specialità. Certo. Max è anche uno che fa solo gigante, per cui vedremo, insomma, però se è in grado di regalarci delle situazioni come quelle di oggi, però è chiaro che, per tornare al tuo discorso, l'uscita italiano può essere una Ferrari solo se riuscirà ad aggiungere più armi al suo bagaglio. Certo. Grazie Flavio, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Flavio Vanetti. Io vi do al volo i risultati finali della 16ª di Serie A, aspettando le altre partite. Catania batte Palermo 2-0, l'Inter vince 1-0 a Cesena, il Genoa batte 2-1 il Bologna, la Juventus batte 2-0 il Novara ed è finale 3-3 tra Parma e Lecce. Subito dopo il giornale radio, la classifica, il racconto dei gol, ma soprattutto le vostre voci. 800 24 00 24, numero verde. E adesso partite finite, il vostro momento, 800 24 00 24, questo è il numero verde per far sentire la vostra voce a Tempo di Sport su Radio 24, messaggi 349 238 6666. Riepilogo dei risultati prima di Enrico da Pavia e Francesco dalla provincia di Pesaro, che sono i primi due ascoltatori di oggi. Dicevo prima, se c'è una costante è la totale assenza di gol nel tabellino del Palermo in trasferta. Palermo che perde anche il derby siciliano con il Catania, che vince meritatamente 2-0, aprendo con un gol meraviglioso di, sono indeciso sulla scelta del gol più bello della giornata, di Lodi su punizione, punizione pennellata nel 7 dopo 31 minuti di gioco. Al 15° della ripresa, netto il rigore per il Catania, fallo di Piniglia che affonda Maxi Lopez in area, lo stesso Maxi Lopez segna e poi viene sostituito, va in panchina, si commuove, piange, questo fa intendere che potrebbe essere stata questa l'ultima sua partita, l'ultima sua apparizione al Massimino con la maglia del Catania. Sapete che ci sono sempre le voci che vorrebbero Maxi Lopez nel mirino del Milan. L'Inter non gioca una grande partita e sta per parlare Ranieri, quindi ve lo farò sentire attraverso i microfoni di Sky. Non gioca una grande partita per nulla, è una bruttissima partita quella di Cesena, ma la porta a casa, e questo credo sia, non so se correggetemi se sbaglio, credo sia un ottimo segnale per il tentativo di rimonta dell'Inter, se non alle posizioni scudetto è ancora molto lontana e secondo me resta tagliata fuori, però quantomeno ad una zona più vicina all'obiettivo Champions League. Decide Ranocchia di testa al 18° su punizione di Maicon e pessima uscita di Antonioli. Il Genoa, soffrendo moltissimo, batte 2-1 il Bologna e probabilmente salva la panchina di Malesani, gol di Rossi, Marco Rossi al 39° su assist di Pratto, migliore in campo mi pare, pareggio a 6° della ripresa di Ramirez dopo un meraviglioso colpo di tacco di Di Vaio, lo stesso Pratto al 40° decide la gara, la Juventus batte 2-0 Novara e si ripiglia la testa della classifica. Grande primo tempo dei bianconeri che passano dopo 4 minuti con il solito Pepe, in scivolata su cross basso da sinistra di De Celi al 30° della ripresa. Chiudi conti Quagliarella che torna al gol dopo un anno, colpo di testa su corner dello stesso Pepe, Juventus che ha sprecato molto, che poteva chiudere e forse doveva chiudere prima la partita, e che deve ringraziare anche Buffon che sull'1-0 fa una grande parata su un colpo di testa di Rubino. Incredibile partita a Parma, 3-3 tra Parma e Lecce, Parma in vantaggio su rigore con Floccari dopo 17 minuti, all'inizio della ripresa, 13°-16° la doppietta di Di Michele, poi Cuadrado per il 3-1 della squadra di Cosmi, che però si conferma un mezzo disastro, forse un disastro totale in difesa, e prende al 42° il gol di Pellea, al 47° quello di Galloppa per il 3-3, sta parlando Ranieri. Difficile farne. Diciamo che per voi è giusto scindere oggi il risultato dalla prestazione, cioè tenere il risultato e magari rivedere poi la prestazione. No, non la rivediamo la prestazione, prendiamoci il risultato e va bene così. Queste non sono quelle partite che devi andare a rivedere. Onesto Ranieri, onesto e corretto nella sua analisi, perché è stata una partita onestamente da coprirsi gli occhi quella di oggi a Cesena, però ripeto, io interpreto questo come un segnale positivo per l'Inter, perché è una partita che oggi non meritava di vincere, anche in questo caso salvata dal suo portiere come per la Juventus, che ha giocato una partita profondamente diversa. Però c'è stata quella grande parata di Julio César che vi abbiamo raccontato su Gezal verso il finale della partita. Di nuovo Ranieri. Ha subito solo uno. Io credo che la ricostruzione di Ranieri sia partita proprio da lì, mister. Buonasera. Dare buonasera. Solidità difensiva alla squadra, è giusto? Ma è giusto, una squadra come l'Inter, anche se come oggi non ha un gioco fluido, perché il Cesena ci pressava in ogni dove, il gol più o meno lo trova, l'importante è non farlo segnare agli altri. Nella prima parte del campionato avevamo preso tantissimi gol, troppi per una squadra come l'Inter, e adesso tutti quanti corriamo per difendere anche quando non abbiamo la palla, per cui la difesa è più protetta dal centrocampo, il centrocampo è protetto dai due attaccanti, la squadra riesce a restare il più possibile compatta, vicina, e i risultati si vedono. Ma non è che magari Lucio ha smesso anche di fare sti chilometri che, per carità, erano belli da vedere, ma insomma, che facevano venire qualche patema di troppo ai compagni di reparto? Ma Lucio, Samuel e piano piano anche Ranocchia stanno entrando in forma, e questo è molto importante, per cui lui gioca molto anche sull'anticipo, per cui potrebbe essere una sorpresa quando ruba palla e riparte, soltanto che alcune volte cede, ma è un ragazzo intelligente, riesce a capire queste cose, per cui ne fa molte di meno. Billy. Così Ranieri, andiamo dai nostri ascoltatori invece. Enrico, buonasera. Sì, buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Io volevo solo fare i complimenti anche a Quagliarella, che voi avete già citato, che da sportivo, lo dico, non da juventino, torna a essere dopo quasi un anno un marcatore e un, diciamo, un protagonista del calcio italiano. Dopo un anno pieno. Un anno praticamente pieno. Avevo letto qualche giorno fa sul giornale che sarebbe stato per lui un bel regalo di Natale, e direi che il regalo di Natale è arrivato per lui e per tutti gli sportivi, gli amanti del calcio italiano. Tra l'altro, stacco magnifico. Tra virgolette, un problema a Cesare Prandelli, però è un bel problema, cioè? Diciamo che stavolta. Beh, diciamo che magari Prandelli le sue scelte per il Sassuolo le ha già fatte. Beh, ma Enrico, però adesso è un gol, ma secondo me siamo lontani, nel senso che tra gli attaccati juventini certamente Matri viene molto prima di Quagliarella. Insomma, è tornato a segnare dopo un anno. Fino a un mese fa sembrava grosso modo non un ex giocatore, ma un giocatore che aveva ancora molta paura del contatto, ha subito un infortunio molto grave. Era comunque ed è comunque, forse sta entrando nelle rotazioni di Conte, però fino a un mesetto fa non si alzava mai dalla panchina. Oggi ha giocato, ha segnato un bel gol, però da lì a dire crea un problema a Prandelli mi sembra tanta roba onestamente. Grazie Enrico. Francesco, provincia di Pesaro. Buonasera, pronto? Buonasera. Buonasera a tutti. No, niente, io sono proprio juventino, invece sono proprio da Gabice Mare, e ho visto la partita della Juve, che è stata, guarda, ti dico la verità, sono stato un po', come dire, con due pattini d'animo. Vedere una squadra, soprattutto per un tempo che veramente ha giocato bene, vedere una squadra che si affanna e gioca a calcio, paradossalmente rischiare di prendere gol ogni momento, è stata una cosa incredibile. Beh, ogni momento magari no, Francesco, però è chiaro che sai benissimo come se domini in quella maniera e non trovi il gol del raddoppio, e poi Buffon non fa quel miracolo su Rubino, insomma l'1-1 ci può stare. Se puoi trovare una smagliatura in questa Juventus, è appunto nella mancanza del killer instinct, perché oggi era una partita da chiudere 3-0 al primo tempo e festa finita, no? Mentre così tieni in vita gli avversari, e la Juventus ha anche qualche problema. Sentivo sottolineare prima in telecronaca, ma è un'analisi condivisibile, nella gestione dei ritmi della partita. Quindi ho già rischiato in realtà più di quanto avrebbe dovuto contro un Novara che tra l'altro è stato colpito subito, e sappiamo bene come queste partite, la grande difficoltà di queste partite stia nello sbloccarle. Ebbene, la Juventus è riuscita al volo con il quinto gol stagionale, che sono una montagna, 5 gol del solito Pepe, su un cross basso di un altro giocatore che Conte sta provando a inserire nelle rotazioni per allungare la squadra. De Ceglie, cross da sinistra, cross basso da sinistra, difesa del Novara rivedibile, quantomeno secondo me, sul taglio di Pepe, che è stato molto bravo ad inserirsi segnando questo gol importantissimo. Conte, poi andiamo sul traffico. Alla fine poi arrivano i risultati, puoi anche vincere non giocando bene, però accade una volta, due volte, devi essere molto fortunato. Penso alla fine preferisco vincere una volta in meno, però comunque cercare sempre di costruire il tutto attraverso il gioco. 17 palle gol create, 2 gol segnati, questo è un dato su cui rifletto? Comunque preferisce creare tanto e arrabbiarsi un pochino per le occasioni sprecate e lavorare in questo senso? Ma c'è l'aspetto positivo, che si crea veramente tanto, c'è l'aspetto negativo che abbiamo lasciato il risultato in bilico fino alla fine. Questo non va bene per le coronarie mie, per le coronarie di chi sta in panchina, questo sicuramente, perché quando giochi non ti accorgi, sei talmente preso dalla transagonistica, ma anche chi sta fuori patisce in maniera importante, soprattutto dopo che vedi che domini e sprechi, e poi alla fine c'è sempre comunque la possibilità che la squadra avversaria ti faccia gol. Siamo un'altra battuta di Conte con Sky, dai. Lo faccio esclusivamente per un unico obiettivo, quello di vincere e di mettere la squadra nelle migliori condizioni. Ripeto, quando scelgo non guardo mai la testa, è l'ultima cosa che guardo, fino al collo, prima di fare qualsiasi scelta, poi dico vabbè, è Tizio o Caio. Giovanni, ultima battuta, visto i risultati di oggi, sì, volevo chiedere a Conte se, mi sa che l'appello che ha lanciato ieri non l'hanno raccolto i suoi colleghi, quello di lasciar perdere il campionato per farla andare in Coppa. Sì, ma cioè, ultimamente se sento dire spesso, posso capirlo dagli addetti ai lavori, però ultimamente sentirlo dire anche dagli altri allenatori che noi siamo avvantaggiati perché non abbiamo le coppe, ribadisco che noi siamo pronti a giocare la coppa l'anno prossimo, e gli altri che lasciano perdere, quindi siamo pronti ad affrontare il triplo impegno del campionato, Champions League possibilmente e Coppa Italia. Questo certo è innegabile che sia, e Conte lo sa perfettamente, che sia un vantaggio poter giocare una volta a settimana, risparmiarsi viaggi, fatiche, e magari, insomma, questa Juventus non è pronta ovviamente per l'alto livello europeo, quindi qualche fatale arrabbiatura oltre a quella relativa ai gol mancati. C'è chi scrive, Roberto da Arezzo, questa di oggi è la vera Inter di Ranieri, brutte con i tre punti, oppure un altro ascoltatore, io parlavo di segnale positivo per l'Inter aver vinto una partita brutta come quella di oggi, e c'è chi scrive, è segnale di gran sedere, certo serve anche quello per risalire la classifica da posizioni così basse, però le grandi squadre fanno questo, il Milan ieri sera non ha certamente giocato una grande partita, perché è inevitabile avere un andamento di questo tipo su una stagione asfissiante, e in questo periodo davvero asfissiante, con questa ossessiva questo calendario ossessivo che propone partite tutte le sere tra recuperi, coppe, Coppa Italia, eccetera eccetera. Io non vedo l'ora sinceramente che arrivi mercoledì notte, quando si chiuderanno le danze, perché l'ultimo mese è stato molto stressante, non solo per le nostre televisioni, è stato un po' nauseante, almeno a mio parere. 800 24 00 24. Antonio, buonasera. Salve, buonasera. Magari a lei piace guardare una partita tutte le sere? Sì, abbastanza. Sì. No, ma non si stufa? Ma non si annoia? Cioè, dopo un po' è come mangiare la cosa più buona che ti piace di più, però mangiarla tutti i giorni. Probabilmente siamo drogati di questo sport. E quindi sarà meglio disintossicarsi un po'. Dica, senta, dica. Io sono tifoso della Juve. Sì. È un ottimo giornalista, però noto una certa antinuzinità nelle sue parole. Perché? Non lo so. Anche stasera, al commento della partita, se la Juve vinceva 5-2, non si era rubata nulla. Non era rubata è nulla. Quello che ho detto, doveva chiudere 3-0 al primo tempo. Però poi va con palla all'Inter. Non ho capito, non ho sentito. Poi la parata di Buffon è stata determinante. Beh, ma è chiaro che è stata determinante. Ma Antonio, io non lo so, non sono anti-juventino, glielo assicuro, però liberissimo di credere il contrario, non c'è problema. Mi limito a valutare la partita di oggi. La Juventus ha giocato un meraviglioso primo tempo. partite in discesa, lei sa come queste partite sia difficile sbloccarle, ci è riuscita subito con Pepe, che è il vero valore aggiunto di questa Juventus, e poi doveva chiuderla, perché sennò rischi, ma fatalmente, e ha rischiato moltissimo, e deve ringraziare Buffon per quella grande parata, e poi torna al gol Quagliarella e tutto si sistema, ma l'ha detto anche Conte, cioè crei, non so, 17-18 palle gol e fai questa fatica, questo è un segnale su cui è un aspetto su cui riflettere. Mi limito a dire questo, la Juventus è con tutti i meriti possibili in testa a una classifica che guida con 33 punti, così ne approfitto per ricordarla, davanti al Milan 31, all'Udinese 30, Lazio 28, Inter 23, quindi l'Inter si porta al quinto posto in classifica, scavalcando almeno per il momento il Napoli, che poi giocherà stasera, nonché in maniera ufficiale almeno per questo turno Genoa e Catania, che sono a 21, Palermo 20, Chievo 19, Roma, Parma e Cagliari 18, Atalanta, Fiorentina 17, Bologna 15, Siena 14, Cesena 12, Novara 11, Lecce 9 punti. Poi stasera vediamo gli ultimi due atti di questa giornata. Intanto sentiamo subito, ringraziandolo, Furio Fedeli, inviato del Corriere dello Sport. Ciao Furio. Ciao, ecco, io sono qui a Torino, seguivo la tua disamina, effettivamente è una Juve che non ha rischiato di non chiudere la partita, poi c'è stato Super Pepe che dopo un gol ha servito direttamente da calcio d'angolo il pallone per Quagliarella, che ho poi molato Klose contro il Lecce, grande elevazione, soprattutto ha tirato l'angolino. Pesano però anche come due macini gli errori di Del Piero, sì, e anche quelli di Giaccherini, ma Giaccherini corre per tre e quindi magari davanti alla porta può essere impreciso, Del Piero no, ha sbagliato due gol fatti, nel primo tempo ha stato praticamente sul secondo anello il pallone e nella ripresa si è fatto addirittura anticipare da Paci, che era in ritardo. E comunque è una Juve che merita il primo posto, anche se dietro, oltre a non mollare, si presenta un Inter che è particolarmente stimolata in questo, sì, e soprattutto motivata e ispirata, perché col minimo sforzo ottiene il massimo, certo, come fanno le grandi squadre, ci vuole anche il culo e questo lo sappiamo. Senti, ma giocami questo confronto a distanza, visto che l'hai viste tutte e due a stretto giro di posta, quindi una ieri sera e l'altra stasera, questo confronto a distanza tra le due principali candidate allo scudetto, che restano comunque e resteranno Milan e Juventus. Forse non so se resteranno Milan e Juventus, bisogna aspettare ancora l'esito anche di Lazio Udinese, non escludo un rientro del Napoli anche in questo bimestre gennaio-febbraio, a maggior ragione se il Napoli dovesse avere un grande attaccante come Vargas. Io penso che la Juventus è molto più regolare, soprattutto è imbattuta e ha vinto tutti gli scontri diretti, tranne quello a Napoli, dove comunque è stata protagonista, sì, di una rimonta eccezionale. Il Milan a livello di scontri diretti non sta bene, ha perso contro Juventus e Napoli, ha vinto a Roma contro la Roma, ma soprattutto non riesce ancora a ottenere continuità di rendimento fuori casa, mentre in casa su 8 partite ne ha vinte 6 e ha pareggiato le prime due contro Lazio e Udinese, due scontri diretti tra l'altro. Quindi mi stai dicendo che il Milan ha comunque qualcosa in più della Juventus, perché se la Juventus al topo quasi, insomma, comunque una Juventus fin qui ineccepibile, ha soltanto due punti di vantaggio su un Milan che va a tre cilindri, allora resta favorito il Milan. Posso fare questo ragionamento? Sicuramente. Guarda, secondo me saranno decisivi in gennaio e metà febbraio, cioè questo periodo in cui non ci saranno le coppe. È chiaro che la Juventus, nonostante quello che dica Conte, è avvantaggiata, perché giocando una partita alla settimana evidentemente hai maggiori possibilità di recupero. E bisogna però mantenere sempre alta la concentrazione e soprattutto i punti persi peseranno tanto in un confronto serrato dove secondo me per il momento non ci sono solo Milan e Juventus per lo scudetto. Grazie Furio, buon lavoro. Grazie. Grazie a Furio Fedeli, inviato del Corriere dello Sport. Non so se condividete voi che ascoltate, che potete chiamare l'800 24 00 24, il ragionamento che si faceva. È un Milan che va un po' a strappi, una Juventus che invece, vista anche oggi, sta camminando davvero forte, con grande personalità, con grande sicurezza. Se il Milan riesce a restare così vicino, così in scia, quasi con le mani sulla schiena della Juventus, aggrappato, Ebbene, credo sia un segnale positivo per la squadra di Allegri. Antonio da Isernia, buonasera. Pronto? Pronto, eccoci. Sì, buonasera. Senatore, signor Centa, io il mio intervento sì. Si riallaccia un po' a quello che stavate dicendo lei prima con il giornalista qualche secondo fa. Sì. Cioè io volevo chiedere a lei fino a questo momento secondo lei il Milan è più in grado, cioè è più attrezzato per vincere lo scudetto o la Champions League? Allora il Milan, le rispondo subito Antonio, anche perché la comunicazione non è il massimo della vita. Il Milan non, secondo me non è attrezzato per vincere la Champions League, quindi non si pone l'alternativa. Io non vedo il Milan come candidata alla vittoria finale della Champions League. Magari potrà passare il turno con l'Arsenal, anche se non sarà semplice, perché c'è tutta una tradizione sfavorevole contro la squadra di Wenger, però probabilmente è più forte dell'Arsenal, quindi questo turno può portarlo a casa. Credo che il quarto di finale sia forse il massimo degli obiettivi per il Milan. Poi se quello che arriva da lì in poi è impronosticabile, è imprevedibile, non è rapportato secondo me alla forza, non sarebbe rapportato alla forza di questa squadra, che rimane la più forte in Italia, però non competitiva, e abbiamo anche qualche dimostrazione, abbiamo anche qualche prova, nel confronto con le tre squadre che considero di un altro pianeta ora in Europa, che sono ovviamente le due spagnole più il Bayern di Monaco. Le altre inseguono, il Chelsea secondo me se la vedrà brutta con il Napoli, ma se passa il turno ha comunque a mio parere ancora qualcosa in più rispetto al Milan, anche se è una squadra in declino e con diversi problemi, che però farà qualcosa sul mercato. Insomma, non vedo il Milan, non metto il Milan tra le favorite alla vittoria finale di Champions League. Gianni da Parma, buonasera. Mentre vedo il Milan come la principale candidata nella corsa scudetto, resto dell'idea, nonostante il momento della Juventus, la rabbia della Juventus, l'eccellente lavoro di Conte, il fatto che questa squadra stia crescendo, nonostante tutto questo, vedo il Milan come la favorita per il titolo, e quindi continuo a pensare che dovrà essere brava la Juventus ad andare a rubare dalle mani, a strappare dalle mani del Milan questo scudetto. Gianni da Parma, buonasera. Buonasera, sì, io mi allaccio al discorso campionato. Volevo chiederle, a parte la Juve, che io sono contento, eccetera, l'Udinese, di cui si parla sempre pochissimo, Meteora essere una fiammata, cioè una fiamma lunga nel tempo? Beh, ma Gianni, Meteora non lo è, posto, non lo so. Non lo è da anni, insomma. Meteora no, ma è una risposta banale. L'Udinese è una grande squadra, è la squadra che gioca meglio in Italia nel rapporto qualità-prezzo, è una squadra meravigliosa. Io non credo a un Udinese da scudetto, ma per varie ragioni, per ragioni numeriche, per ragioni qualitative. L'Udinese è di quelle lì davanti, ovviamente quella che gioca con minore pressione sulle spalle. È ovvio che tutto quello che arriva è ben accetto, tutto quello che arriva è grasso che cola, tutto quello che arriva viene valutato anche con il giusto distacco. Quindi io non credo a un Udinese da scudetto, perché non mi pare nella logica delle cose. Poi miracoli qualche volta succedono, però si tratterebbe per l'appunto di un miracolo, un Udinese da scudetto nel 2012, forse qualche anno fa poteva essere, con calendari meno ossessivi, torno a ripetere, con la necessità di con minore necessità di queste rose mostruose, eccetera eccetera. Possiamo fare tutti quanti insieme il tifo per l'Udinese, perché appunto gioca un calcio magnifico e ha una filosofia che io trovo sia da condividere dall'A alla Z, compresa la necessità di la scelta precisa di valorizzare i giocatori e poi di cederli sul mercato a congruo prezzo, perché Pozzo non ha mai regalato e non regalerà mai nulla a nessuno. Mette il cartellino e da lì non ci si muove. Tempo di saldo dell'Udinese non esiste. 800 24 00 24, numero verde, a dopo. Torniamo insieme, 800 24 00 24, numero verde per intervenire, messaggi 349 238 6666. C'è chi ricorda il rigore del Milan, che secondo me non c'era. Alessandro lo fa, Alessandro, ed è giusto per la cronaca sottolineare come quel rigore fosse sia stato grosso modo operazione di fantasia. Quanto agli episodi di oggi invece, ma perché ogni tanto è corretto, è anche bello farlo, devo così parlarvi di una grande chiamata della terna arbitrale di Genova diretta da Giannoccaro, perché ci sono state grandi proteste del Bologna sul gol del vantaggio del Grifone dopo 39 minuti di gioco, con Pratto che ha seminato un paio di avversari, compreso il portiere sulla sinistra, l'ha messa in mezzo. Già c'erano state su quel pallone che arrivava a Pratto sulla sinistra delle posizioni difficili da leggere, perché erano tutte sul filo del fuorigioco. Quindi l'assist di Pratto per Marco Rossi, che arrivava di corsa, proteste dei giocatori del Bologna perché era dubbia, poteva essere interpretata anche come una posizione di fuorigioco quella del capitano del Genoa. Invece il fuorigioco non c'era ed il gol era regolarissimo, quindi ogni tanto vale la pena anche di ricordare e di parlare di arbitri che fanno molto bene, come è successo in questo caso. Dunque adesso vediamo chi abbiamo. Salutiamo e ringraziamo Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport, oggi a Cesena. Ciao Mirko. Ciao, ciao a tutti voi, ciao. Allora, dicevo prima, un segnale positivo per l'Inter l'aver vinto la partita di oggi. Molto onestamente sì. Ranieri, l'avrei sentito, ha detto partita, no, non la voglio più vedere questa roba qui. Sì, e non è solo questa, anche Genoa, sì. È un Inter che di buono in questo momento qui sta mettendo via solo i punti. Se però non saprà far tesoro a gennaio, sul mercato di gennaio di questo momento, e allora butterà via un altro anno. L'Inter deve cambiare quasi tutto il centrocampo, soprattutto il cuore del campo. Non si può più permettere di giocare in campo contemporaneamente Cambiasso, Zanetti e Stanco, Thiago Motta, perché viene travolta, viene letteralmente travolta dalle squadre avversarie in mezzo al campo. In questo momento se la sta cavando con grandissima esperienza, rallentando molto il gioco, avete visto anche voi l'Inter gioca 2 allora, e sulle palle ferme sfrutta l'altezza e la capacità dei suoi giocatori di colpire, e quelli sono grandi giocatori. Adesso però deve sfruttare questo momento buono classifica, portando a casa almeno un paio di centrocampisti un po' più dinamici, e poi cercare Snyder, Forlan sulla via del recupero, insomma, poi con un Maicon magari un po' più in forma, allora potrebbe rientrare, diciamo, a ridosso delle prime, anche se là però davanti sono Mirko, scappate. Mirko, tu sai bene come gennaio, soprattutto per le grandi squadre, è il momento in cui si mettono le pezze, non si fanno aggiustamenti, non si fanno interventi strutturali, quindi esatto, esattamente, hanno bisogno, guarda, semplicemente la mia impressione, per come sto osservando l'Inter un po' da lontano, oggi era più diretta ma di solito da lontano, la mia impressione è che loro proprio mancano in questo momento di centrocampisti in grado di recuperare palla e ripartire con violenza, cioè con velocità, e senza questi giocatori non vai da nessuna parte e ne hai assolutamente bisogno. Ora l'Inter ha portato a casa una serie di buoni risultati con grande fatica, perché non solo oggi ma anche a Genova con grandissima fatica, e però là in mezzo il problema c'è, esiste ed è evidente, parecchio evidente. Sì, oggi sentivo parlare di una buona partita di Milito, che sarebbe una notizia. Sì, una buona partita di Milito, che però ha dovuto andarsi a prendere le palle a tre quarti campo, cioè quasi l'ha fatta da trequartista la buona partita, no? Ma Milito la buona partita deve farla davanti, la palla deve essergli portata là davanti, e invece l'Inter in questo momento non riesce a portare la palla là davanti. E è stata una buona partita perché si è giocato a due all'ora, ripeto, era veramente giocato a due all'ora oggi. No, ma il senso del disegno di Ranieri è questo: teniamo la squadra bloccata con il 4-4-2, teniamo noi il pallone così non ci fanno male gli avversari e andiamo a due all'ora. Poi l'ha detto lui prima, il gol prima o poi questa squadra lo trova. Anche su questo avrai qualcosa da dire, ma comunque i dati sono questi. Io sono d'accordo con te, lo trovi con questo tipo di squadre, perché adesso è andata bene incontrare questo tipo di squadre, ma se oggi l'Inter con questo centrocampo affronta la Juventus, affronta il Napoli, viene fatta a pezzi, letteralmente a pezzi, esattamente. Mirko, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, un abbraccio, grazie. Ciao. Grazie Mirko Graziano, Gazzetta dello Sport, Gabriele da Bologna, Daniele da Roma, 800 24 00 24, numero verde. Gabriele, buonasera. Buonasera a lei, signor Gente, complimenti per la trasmissione. Grazie. Le volevo chiedere, fare due domande. La prima, se vede qualche altra squadra tipo Inter o Napoli per, diciamo, l'inserimento per la lotta allo scudetto, e cosa ne pensa del Bologna, se ce la fa, se la farà a salvarsi, perché io penso che sarà molto dura quest'anno. Perché? Oggi ho giocato una grande partita a Genova. Ma non vedo una squadra, non vedo più il divario degli altri anni, vedo un divario che comunque si continua a segnare, ma penso che sia un po' pochino per questo Bologna per potersi salvare in questo campionato. Ma guardi Gabriele, allo stato attuale delle cose credo che il Bologna, credo che la classifica non sia bugiarda, nel senso che il Bologna mi pare avere qualcosa in più rispetto alle quattro che le stanno dietro, che sono Siena, Cesena, Novara e Lecce. Il Lecce ha una pessima cera, nonostante l'arrivo di Cosme, perché è una squadra piuttosto così, piuttosto naif, prende un sacco di gol, anche oggi aveva la partita praticamente in mano. È vero che riesce a segnare con una certa insistenza, però non mi sembra una squadra che ha la faccia della salvezza, almeno in questa prima parte. Poi non so cosa capiterà sul mercato. A me tutto sommato il Bologna non dispiace, è chiaro che Pioli si trova a dover gestire una situazione in cui non ha una rosa pazzesca, è altrettanto evidente, lei ha ragione, che mancano che senza Di Vaio, che il Bologna va dove lo porta Di Vaio con i suoi gol, però mi pare che il capitano dopo un lungo sonno sia tornato a dare con frequenza e con costanza segnale di risveglio, che sia il gol oppure l'assist come è successo oggi, bellissimo, di tacco per Gaston Ramirez, che mi pare comunque un giocatore estremamente interessante, quindi non sarei così pessimista se fossi in lei. Quanto alle possibilità di inserirsi in zona scudetto, io continuo a vedere una corsa tra Juventus e Milan in attesa di altre notizie che non so se arriveranno. C'è Lucio con Sky? È la somma di ponti, e torniamo a pensare andare su, e credo che questa è la mentalità giusta del sacrificio, dell'impegno della squadra, e sicuro che sono felice quando usciamo in campo se prende gol. Senti, oggi è l'anniversario del Mondiale Preclub, l'anno scorso il 18 dicembre vincevate la Coppa del Mondo, oggi avete perso dalla maglia lo stemma di campioni del mondo, c'è un po' di nostalgia? No, è normale, credo che lo importante è che Inter, come diceva te, già fatto vincere l'anno scorso, è difficile sempre arrivare lì e vincere. Noi l'anno scorso stavamo lì e vinciamo, credo che è una cosa importante, e chi sa torniamo a pensare andare lì per prendere. Ilaria? Vabbè, qui facciamo professione di ottimismo, però se vogliamo essere realisti, almeno per come la vedo io, allora l'Inter è a 10 punti dalla Juventus e a 8 dal Milan, lo dice la classifica di oggi. Se ne parlava prima con Mirko Graziano, esiste un divario in questo momento enorme, secondo me, tra Juventus e Milan, ma anche tra quelle che seguono, anche soprattutto l'Udinese, che ha vinto a San Siro non più tardi di 2 settimane fa, con pieno merito peraltro. Esiste un divario enorme, secondo me, tra questa Inter e le prime due della classifica. Dunque, poter pensare che l'Inter, solo in funzione del nome, dei titoli pregressi, dell'elenco dei giocatori e delle medaglie che si portano sul petto, pensare che questa Inter possa rientrare nella corsa scudetto, a me sembra una follia. Poi non ditemi voi se sbaglio, 800240024, io non so chi arriverà a gennaio, però ripeto quanto ho detto prima, normalmente il mercato di gennaio è quello in cui si mettono le toppe e si aggiustano le cose. Questo è un discorso che puoi fare se una squadra funziona. Se una squadra è a fine corsa come quest'Inter, non credo che nemmeno con l'arrivo di 2 centrocampisti di dinamismo, cosa di cui c'è un bisogno essenziale, di cui si parlava prima con Mirko Graziano, beh, credo che anche in questo modo l'Inter non possa rientrare nella corsa scudetto. Ranieri sta continuando a gestire con grande saggezza e con grande intelligenza il Sunset Boulevard di questa squadra, ma che si tratti di Viale del Tramonto è indubbio. Daniele da Roma, buonasera. Buonasera signor Genta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo soltanto dire, Juventino con i piedi per terra. Sì, come tutti, insomma. Sì, si parla di una Juve prima in classifica, ma statistica alla mano mi sembra abbia 3 o 4 punti più dell'anno scorso e abbiamo finito effetti. Vabbè, però dovete anche smetterla di portarvi sfiga da soli, però. No. Perché no, ma ho capito, però va bene, ma il raffronto con l'anno scorso mi sembra una storia totalmente diversa. Possiamo anche andare a ripigliare altre statistiche, cosa che oggi non ho voglia di fare anche per ragioni di tempo, che dicono che chi è primo a quest'ora certamente non finisce male. Possiamo andare a parlare di altre cose, però questo pessimismo cosmico secondo me è anche ora di abbandonarlo. Non ho detto che la Juventus vincerà lo scudetto, secondo me però resterà protagonista da qui fino alla fine, perché ne ha le caratteristiche, ne ha anche le qualità, quindi non credo che si perderà nel bosco. Poi da lì a strappare lo scudetto dalle mani del Milan, che è più forte, questo lo vediamo e sarà un argomento interessante. Però questo discorso mi pare un po' bizzarro, il raffronto con l'anno scorso in termini numerici. È una stagione differente e la Juventus non ha ancora perso una partita, tra l'altro, cosa che l'anno scorso era capitata, quindi mi sembra che i segnali siano diversi, no? Emanuele, Napoli, buonasera. Buonasera, salve. Senta, io sono un tifoso del Napoli, le vorrei fare una domanda. Lei sta ribadendo che il mercato di gennaio è un mercato dove si può usare solo per le toppe. Normalmente per le grandi squadre, non fanno rivoluzioni strutturali nel mercato di gennaio. Il Napoli, posso dire che già da qualche anno può rivelarsi una grande squadra per quello che sta facendo. Sì, sì. Sì, certo. Per l'acquisto, diciamo, forse quasi effettivo di questo Vargas cileno. Non penso che sia una toppa per quello che starebbe spendendo il Napoli. Beh, ma non lo era neanche Pazzini l'anno scorso per l'Inter. Pazzini era Nokia, che vennero presi a gennaio, no? Non ho detto che nel mercato di gennaio non si possono comprare giocatori importanti, però per il Napoli sarebbe un arricchimento, un valore aggiunto in una squadra che però già funziona, Emanuele. Sicuramente, però bisogna vedere se giocherà da titolare, soprattutto credendo che questi tipi di giocatori per adattarsi in Italia è un po' difficoltoso. Certo, ma è per questo, è il discorso che sto facendo io. Bisogna vedere se giocherà a titolare. E poi, insomma, questi giocatori saranno anche fortissimi, hanno grandi credenziali. Io mi fido anche della valutazione fatta prima da Giovanni Capuano, che lo conosce bene, che l'ha visto di recente molte volte. Quindi che si tratti di un prospetto molto interessante è indubbio. Poi cominciamo a portarlo qui e vediamolo qui. Il Napoli, prendendo questo giocatore, tra l'altro per tanti soldi, quindi vuol dire che ci crede, De Laurentiis, non mette una pezza, però mette un mattone per il futuro, non per questa stagione. Magari vediamo, questo è fortissimo, potrebbe andare sul mercato uno dei big, questo non lo so, però non lo vedo come un investimento essenziale per il presente, perché Napoli funziona già benissimo così com'è, quindi ha la possibilità di inserire, di valutare, di vedere questo Vargas. Se poi è più forte di Cavani e di Lavezzi, giocherà lui, no? Mi sembra un valore aggiunto, non una pezza. Ripeto, non ho detto che al mercato di gennaio non si possano prendere dei signori giocatori. Ecco che torniamo sempre con il jingle natalizio. Vi ricordo che naturalmente questa è l'ultima puntata, non piace tanto a Valeria Bernardi, ve lo assicuro. Comunque questa è l'ultima puntata così con questo orario per il 2011, poi naturalmente torneremo la prima domenica di campionato del 2012 con l'appuntamento dalle 16.30 alle 19, e già che ci siamo anche con l'appuntamento serale, così ve lo ricordo, dalle 20.30 alle 21 per Palla Spicchi. Non vi abbandoneremo, né sottoscritto né Gigi Garanzini, nel corso delle vacanze di Natale, perché insomma saremo sempre Natale, Capodanno, saremo sempre qui a parlare di sport con voi. 800 24 00 24 è il numero verde. Stefano da Brescia mi scrive: ma lo dica, ma che dice? La Juve è più forte e vincerà lo scudetto. Ma io tutta questa sicurezza non ce l'ho, che la Juventus sia comunque una squadra da titolo lo sta dimostrando, cioè si sta costruendo il destino con le sue mani. Saluto il mio amico Enzo Buchioni, direttore di QS, grazie direttore. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovato, ciao Carlo. Ciao Enzo, cosa ha aggiunto questa giornata al duello tra Milan e Inter secondo te? Milan e Juventus secondo te? Ma ha confermato che la Juventus ha questa straordinaria aggressività, capacità di interpretare le partite, anche quelle un po' scivolose come quello di oggi col Novara, perché il rischio a certi livelli è di deconcentrarsi quando hai una partita sulla carta facile, magari puoi pensare di averla già vinta in partenza e non è sempre così. E invece la Juventus su questo veramente stupisce, perché è già squadra. Oggi già squadra, tutto da copione comunque, direttore. Il gol all'inizio, un grande primo tempo, la Juventus che non ha ancora il killer instinct che serve, un grande portiere che le salva il risultato quando le leggi del calcio dicono che se non chiudi magari rischi, e poi Quagliarella che mette in ghiaccio questa partita. Ci sono tutti gli elementi della partita perfetta per una squadra che corre per lo scudetto. Hai detto benissimo, la tua analisi è perfetta, come perfetta la partita della Juventus, e ci porta a pensare che sia l'anno della Juventus, perché quando in una partita succedono tutte queste cose veramente ti dice, allora oltre ad essere bravi sono anche fortunati, fanno tutto giusto al momento giusto. E poi diciamo un po' la verità, c'è anche questa voglia di Juventus in generale, al di là della tifoseria, che è comprensibilissimo, ma un po' tutto il calcio aspettava il ritorno. Ma il calcio italiano ha bisogno di una Juventus forte, secondo me, al di là dei gusti personali, il movimento calcio italiano ha comunque bisogno di una Juventus che sia competitiva, Enzo. Ma sì, perché gli anti-juventini, c'è finalmente un contraltare importante, esatto, con il quale confrontarsi, magari fare delle polemiche, e negli anni scorsi siamo stati un pochino tutti orfani della Juventus, certo, forse anche gli arbitri si possono discutere un po' meglio. Che adesso si sentono un po' meno orfani comunque. Sì, un po' meno orfani, assolutamente. Ora ci sono gli anti-milanisti che protestano per queste reiterate situazioni, ma insomma anche questo è il bello del calcio. Ma fa parte del gioco. Senti, invece io prima dicevo che all'Inter continuo a sentire che dichiarazioni di partito, no? Logiche di partito, siamo ancora in corsa per lo scudetto. Io faccio due conti e vedo che l'Inter è a 10 dalla Juve, a 8 dal Milan, ma soprattutto che c'è un abisso, ne parlavamo prima con Mirko Graziano, tra questa Inter e le prime due della classe, davvero una distanza che il mercato di gennaio, che prima ho detto è un mercato in cui magari si muovono anche giocatori importanti, però è un mercato in cui non costruisci una grande squadra. Si parlava della necessità di un paio di centrocampisti di dinamismo per dare una mano a questi che hanno dato tutto, ed è evidente, però continuo a vedere una distanza pazzesca al di là del dato numerico dei punti tra l'Inter e chi guida la classifica. Sì, assolutamente. Guarda, se poi ci attacchiamo sempre ai numeri, con quello che dice la classifica, non solo la classifica, il rendimento dell'Inter non potrà arrivare allo scudetto, salvo miracoli, perché poi miracoli nel calcio si possono sempre fare, si possono sempre realizzare, però i numeri sono chiarissimi. Quando sei così distante, quando hai questa media di gol subiti, quando lo scudetto devi dimenticartelo, però fa benissimo Ranieri a dire ci crediamo ancora, a dirlo alla squadra, perché la deve motivare questa squadra, come certo, fare una squadra certo, psicologicamente a pezzi. Quindi lui fa bene il suo mestiere e sta facendo bene un'altra cosa da sottolineare e da non sottovalutare contemporaneamente: ha assestato la difesa. L'Inter non prende più gol, prima ne prendeva una valanga, certo, e questo è un fatto molto importante, un dato molto importante, perché da lì puoi ricominciare non solo a credere di poter fare qualcosa di importante, però a costruire la manovra, poi verrà al centrocampo. Intanto assestare la difesa è un passo importante. È chiaro che sei troppo lontano dalla vetta, sei troppo lontano anche dal rendimento, dal modo di approcciarsi alle partite di Milan e Juventus, non c'è la concentrazione, la cattiveria, anche il modo di fare gioco, perché oggi l'Inter ha giocato come ha giocato nelle ultime partite, cioè male. Sì. Poi coglie roba da bollino rosso, Enzo, roba da bollino rosso, ma come Ranieri con molta onestà e anche in modo simpatico ha detto: no, questa partita non la voglio vedere più, non la voglio mica rivedere. Non sono partite che si riguardano queste. Ma anche le precedenti, a Siena, certo, la partita in maniera analoga. No, in fotocopia, in ciclo stile, le ultime partite dell'Inter. Però ha portato a casa i punti. Sì. Per essere cattivi possiamo dire che hai trovato la fortuna, ha assestato la difesa e hai trovato la fortuna, fortuna che prima non c'è. Quindi con queste caratteristiche forse riesce a raggiungere un po' di posizioni un pochino più decenti, però certo, detto, ma poi perché vedi, gioca con una squadra più forte, più organizzata come l'Udinese, e la distanza di cui parlavo prima risulta evidente, perché l'Udinese a San Siro ha vinto come ha vinto con tutti i meriti del mondo, controllando anche emotivamente la partita. Va bene, primo tempo vi aspettiamo qui, nel secondo tempo, quando l'Inter si è sbilanciata, li ha colpiti con una crudeltà addirittura esemplare. Volevo chiederti una cosa, prima parlavi di un Inter, per chiudere, di un Inter che ha quantomeno assestato la difesa, e questo è vero, dovrà farlo prima o poi anche degli Orossi a Firenze, perché la Fiorentina è un'altra squadra abbastanza inguardabile, se me lo permetti. Sì, assolutamente inguardabile, soprattutto ieri sera c'è un grande caos attorno alla Fiorentina, e Degli Rossi è arrivato per aggiustare, come è arrivato un po' Ranieri ad aggiustare l'Inter. Degli Rossi c'è un parallelismo e bisogna dargli tempo, perché per prima cosa non ci sono giocatori adatti al tipo di gioco che vuol fare Degli Rossi, ci sono giocatori demotivati che vogliono andare via. La Fiorentina potrà cambiare rotta, marcia, soltanto con un importante intervento sul mercato. Per giocatori in uscita ce ne sono alcuni, cito Marchionne, che non sono mai stati presentati in questo campionato, sicuramente devono cambiare. C'è un po' di questa situazione. Vargas ha chiesto di andare via. Se la Fiorentina riuscirà a liberarsi di questi giocatori e poi fare un po' di mercato, può riassestarsi. Altrimenti la situazione è veramente difficile, perché Gilardino ieri ha segnato, ma continua ad essere abbastanza lontano dal suo rendimento. C'è soltanto un giocatore che si chiama Jovetic, che tiene in piedi la Fiorentina, e questo non può bastare, non basta assolutamente. La situazione di classifica comincia a diventare pesante, anche se la classifica è molto corta. La sosta di Natale può essere fondamentale, certo, per vedere se in questo mese Degli Rossi riesce a capire qualcosa, cioè a capire dove intervenire. Certo. In questo mese ha fatto qualcosa, ma ha capito poco anche lui, perché evidentemente sono giocatori, erano talmente giocatori demotivati da ricostruire nel morale, ma anche dal punto di vista tattico. Questa squadra tatticamente sta male in campo, e torna la tua domanda, in questo modo prende molti gol, perché si allunga, perché è distratta. Situazione estremamente difficile. Grazie direttore. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, a presto, grazie. Ciao. Grazie Enzo Buchioni, direttore di QS. Un paio di minuti e un paio di ascoltatori. Magari facciamo Luca prima del GR, se no dobbiamo correre troppo. Luca, dica. Buonasera, provincia di Cesena. Provincia di Cesena, appena fresco di partita. Volevo complimentarmi e confermare quanto poc'anzi voi avete appena detto. Insomma, io ho visto, tralasciando la prestazione del Cesena, di cui io sono un tifoso marginale, comunque ero in una tribuna promiscua, ho visto tanti interisti molto scontenti. Mi sembra un Inter con tanti campioni che, per dirla con un termine di paragone molto comune dalle mie parti, è come un mosaico di cui il collante forte poi era Neri, che stava svolgendo un ottimo lavoro con una squadra che è a pezzi. Ed è quello che ho visto io. Poi non voglio parlare del Cesena, perché ha fatto quello che poteva, insomma. Sì. Però ho visto una pessima, davvero pessima Inter contro un Cesena che poteva fare di più. Sì, complimenti a Ranieri, ma il resto da rifare. Ma no, ma Ranieri, torna a ripetere, sta facendo a mio parere il massimo con questo gruppo. Lei ha parlato di mosaico, io potrei parlare di Carrello dei Bolliti, ma di campionissimi, di campionissimi che hanno di super giocatori. Vedevo parlare ora Cambiasso, insomma sono giocatori straordinari, però fisiologicamente si arriva alla conclusione di una storia. La storia di quest'Inter si è conclusa già da tempo, e Ranieri sta facendo benissimo nel gestire questo lungo viale del tramonto. Dove porterà, dove finirà il viale del tramonto, ancora non si sa. Io credo che, se fosse un tifoso dell'Inter, è questo il domandone. Al di là di quello che può succedere sul mercato di gennaio, come sarà e quale sarà l'Inter del futuro? È a questo che non c'è risposta. 800 24 00 24, vi aspetto qui dopo GR. Non è molto pertinente il messaggio che stavo ora leggendo, però ve lo leggo lo stesso. Mi auguro che non ci sia riforma elettorale che Monti sceglie, che Monti operi bene, che si presenti nel 2013, che vinca, che scelga bene chi far entrare in Parlamento e che butti fuori così dal Parlamento i disonesti. Viva l'Italia. Ve lo butto lì, ve lo lascio lì questo messaggio SMS non pertinentissimo, come dicevo, con la Tempo di Sport. 800 24 00 24 per le vostre chiamate e per i vostri messaggi. 349-238-6666. Fabio da Roma invece ne scrive uno pertinente, anche condivisibile a mio parere. Ranieri sta facendo miracoli col valore reale di quello che ha in mano a Milano, ma ve lo leggo dopo, perché c'è Giancarlo Tenivella a Torino con un ospite in diretta. Di organizzazione tattica, di capacità tecniche e sicuramente di ritmi importanti, intensi, però non vorrei, ecco, anche che tra virgolette si snaturasse un po' discorso dell'organizzazione e del gioco di questa squadra. Io penso che questa sia una squadra che giochi a calcio anche in maniera importante. Oggi mi hanno detto che sono create 17 occasioni da rete, che non è che sono numeri, sono numeri importanti, quindi si sta facendo qualcosa di bello, però sappiamo che non basta, perché da domani si ricomincia e c'è subito mercoledì una partita importante contro l'Udinese. Ecco, quanto fastidio ti dava il Milan davanti in diretta, alla naturalmente, prima con della noi. Contro Novara davanti alla Juve? Ma guarda, fastidio... insomma, dai, visto no, che si profila questo duello, no, diciamolo. Dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a quello che stiamo facendo, sono cose secondo me straordinarie, al di là anche di qualsiasi più rosea previsione. Quindi pensiamo a noi, che penso sia la cosa più bella. Ecco, un gol. Purtroppo è caduta la linea, abbiamo sentito Antonio Conte in diretta con noi al microfono di Giancarlo Tenivella. C'è Mangio invece con Sky, sentiamo cosa sta dicendo. Se uno incomincia a crearsi problemi da solo, è finita. Dice, tanto te li creano gli altri eventualmente. Sì, però troppe assenze a centrocampo oggi, Davis. Ma no, ma in mezzo secondo me i due centrocampisti centrali hanno fatto una buona gara. Noi abbiamo sofferto primo quarto d'ora forse il ritmo loro, poi dopo però secondo me la squadra ha mosso anche palla con discreta qualità, anzi un po' di più anche che discreta. Poi dopo diciamo che negli ultimi 30 metri abbiamo dei problemi, secondo me legati, visto che so bene o male quello che facciamo in settimana, legati più alla condizione specifica di alcuni giocatori che non sono al massimo. Ci mettono tutto l'impegno del mondo, ma purtroppo non siamo al massimo da questo punto di vista, e la cosa poi si nota, soprattutto a questi livelli, insomma. C'è intanto Montella che saluta Mangia, bacio abbraccio. Ok. Lì eccoci. Cioè, si è fatto male anche Miccoli, tra l'altro. Sì, di sicuro alla fine del primo tempo è uscito perché aveva male. Adesso vediamo, valutiamo. Non è che abbiamo molti giorni per valutare, perché qua si gioca subito. Però vediamo. Solo una cosa, come si fa a sconfiggere il sortilegio della trasferta? Mai un gol, mai una vittoria? Perché adesso andate a Novara. Ma guarda, io voglio valutare la partita di oggi. E la partita di oggi io l'ho valutata in questo modo. Secondo me la squadra ha dato quello che aveva da dare, ha manovrato, secondo me, ripeto, appena, a parte il primo quarto d'ora, ha manovrato anche abbastanza bene tra i quattro dietro e i due mediani. Poi dopo abbiamo, secondo me, manca un po' di condizione lì, ma ripeto, basta che io guardo il tabellino degli allenamenti settimanali e purtroppo è un momento così da quel punto di vista. Quindi scarsa forma degli attaccanti secondo Mangia, certo che lo zero assoluto in 8 partite in trasferta è un dato che insomma è bizzarro, ma va tenuto in considerazione. Davide, provincia di Vercelli, poi Silvio da Teramo. Davide, buonasera. Davide? Ciao, dimmi. Ciao, no, dimmi tu. No, niente, volevo fare una domanda. Se sì. Del Piero era ancora indispensabile alla Juventus, secondo voi? Ah, domanda da niente. Indispensabile no, io non credo. Io non credo che come giocatore Del Piero sia ancora indispensabile per la Juventus. Possa essere molto utile, indispensabile no, ma forse nemmeno da oggi. È un giocatore molto carismatico, è un giocatore che comunque è già stato licenziato di fatto, perché gli è stato detto che non gli verrà rinnovato il contratto a fine stagione, e dunque credo che questo lo sappiano anche quelli che hanno preso questa decisione. Davide, dove si trova? Io sto tornando indietro da vedere la Juve. Sono d'Arborio. Ah no, perché sentivo un discreto, è in buona compagnia. Sì, sto sul pullman. Ah, e lei cosa dice? È indispensabile. Voi cosa dite lì sul pullman? È indispensabile o no Del Piero per la Juventus? No, dal mio punto di vista no, ma per parte degli altri sì. Ah, quindi lei viaggia sul pullman assediato dai Del Pieristi? Sì, sì, questo sì. Ah, benissimo. Buon viaggio. Del Piero mi sembra che oggi non abbia giocato tutta sta gran partita. Era l'ombra di Del Piero. Appunto. E non si può neanche pretendere che dopo che lo levano dalla naftalina, e questo fa i numeri, e quindi ci sarà anche una ragione, e oggi magari l'abbiamo vista sul campo, per questa gestione di Conte del suo capitano. Io continuo a pensare che certe umiliazioni gli vadano risparmiate, quindi farlo scaldare al 90esimo e dargli due minuti di campo, come è successo in alcune occasioni, non lo trovo un gesto, una modalità di impiego poco elegante. Come giocatore proprio tattico in questa maniera, per perdere tempo e per effettuare la sostituzione quando stai portando a casa il risultato. Però sul fatto che questa non sia la Juventus di Del Piero, penso che anche i compagni di pullman di Davide possano essere d'accordo, se ragionano in maniera minimamente oggettiva. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo con Silvio. Io avevo un messaggio lasciato lì in sospeso di Fabio da Roma su Ranieri, lo leggo. Ranieri sta facendo miracoli col valore reale di quello che ha in mano a Milano, e come la sua storia insegna si attira la rabbia di chi vuole tutto e subito. Ho solo ricordi positivi su Ranieri a Torino e a Roma, sfiorando il tricolore, ma sempre molto fango tirato addosso ed etichettato come insufficiente per vincere, quando chiunque avrebbe fatto peggio. Credo sia solo un allenatore di lungo corso, cioè che il risultato lo porta dopo 3 anni, ma lo sappiamo, a dicembre 2012 finirà il mondo. Fabio da Roma. 800240024 invece per la vostra voce. Do un ragguaglio anche tecnico, cioè chi scrive: ma se la partita è finita, come fa ad esserci, a sentirsi il tifo in sottofondo mentre parla Mangia? Nel caso specifico era Mangia, ma lo sentite quando faccio ascoltare queste voci? Semplicemente perché le faccio ascoltare, come dico sempre, attraverso i microfoni di Sky, con cui abbiamo questa amicizia di lungo corso, e vengono usati gli effetti sonori per punteggiare, per sottolineare le dichiarazioni di chi viene intervistato. Questo per la cronaca. Silvio Teramo, buonasera. Buonasera. Volevo ritornare un po' a quello che hai detto prima riguardo l'Inter. Mm-hmm. Premetto che sono interista, ci credo. Credo fiducia cieca proprio, amore cieco, amore, ma è giusto così, no, io dico che è giusto così, semplicemente io guardandola da non innamorato, dico oggettivamente ciò che mi piace e ciò che mi piace di meno. L'Inter in questo momento non è bellissima sicuramente, anche quando non sto parlando di estetica, tutto. Silvio, non sto parlando di estetica, non sto parlando di estetica, però io non credo, scusami, che sia una follia pensare che l'Inter possa nulla è una follia. Con le prime due, perché sinceramente questa grande Juventus, io al di là del carattere non è che la vedo, io sono anche un ex calciatore di buon livello, quindi non è che mi faccia impazzire come gioco la Juventus. Magari non la vedi perché guardi l'Inter. No, ho visto Bologna ed è stata veramente soffertissima, direi, Bologna, di Coppa Italia. La Coppa Italia fa testo fino a un certo punto, a mio parere. Però, comunque, ma io non sto dicendo che la Juventus... di Pirlo e del Marchisio fino a poco certo, prima della fine. Ma sono i due giocatori chiave. Pirlo e Marchisio sono i due giocatori chiave di questa Juventus. Pirlo, Marchisio, aggiungo Vidale, aggiungo Pepe, sono questi i giocatori chiave di questa Juventus. Sta tornando ad essere un giocatore chiave, e l'abbiamo visto oggi, Gigi Buffon. Non so, un altro giocatore importantissimo è Matri. È evidente che se, come oggi è capitato, Conte riesce ad allungare con profitto le rotazioni, cosa capitata appunto oggi con Quagliarella, possiamo tornare a ragionarne. Poi vediamo se il mercato allungherà ulteriormente queste rotazioni, oltre a sanare un po' il bilancio con quei soldi buttati dalla finestra per giocatori che conoscete. Non sto dicendo che la Juventus è il Real Madrid, sto dicendo che è una cosa estremamente seria, che vedo al momento una considerevole distanza tra la Juventus, il Milan e l'Inter. Poi è evidente che chi è innamorato dell'Inter fa bene a pensare che quei 10 punti possano essere colmati. Io sinceramente da qui non riesco a vedere i presupposti di questo ragionamento, se non la fiducia cieca, la fede assoluta. Da un punto di vista calcistico io i motivi di questa fiducia non li vedo. Saluto Gabriele Marcotti, corrispondente da Londra per Stampa, Corriere dello Sport e molte altre testate. Ciao Gabriele, grazie. Buonasera a te. Volevo chiederti conferma di una cosa. L'altro giorno, quando c'è stato il sorteggio, al di là dell'esilarante accoppiamento tra il Lione e l'Apo e Nicosia, perché il Lione non solo ha fatto la torta ma ha anche vinto la lotteria, ha anche vinto la lotteria con soddisfazione magari di Platini, ma queste sono altre storie, altri discorsi, altri scherzi del destino anche. Ho letto l'altro giorno una certa preoccupazione sulle facce dei dirigenti degli emissari del Chelsea. Diciamo che qui in Inghilterra ovviamente l'impresa del Napoli che è passata davanti al Manchester City ha avuto un grandissimo risalto, soprattutto la partita del San Paolo, i cronisti inglesi sono tornati descrivendo una bolgia, un tifo fantastico, eccetera. E bisogna sempre dire che il Manchester City quest'anno sta dominando in Inghilterra, anzi proprio in questo istante appena passato in vantaggio contro l'Arsenal, e quindi il fatto che il Napoli sia stato in grado di eliminare il City e che al tempo stesso il Chelsea abbia mille magagne, evidentemente fa pensare che seppur il Chelsea magari resta favorito, comunque il Napoli gli darà tanto filo da torcere. Certamente, no, stavamo pensando anche un'altra cosa, l'amico Filippo Maria Ricci che arriverà dopo di te dalla Spagna, a Mourinho che gli dà molto da scrivere, tu hai Balotelli, siete messi abbastanza bene tutti e due. È vero, Balotelli, anche se poi dopo su Balotelli, dato che Balotelli è un personaggio dove tutto è plausibile, sì. Uno può scrivere qualsiasi scemenza che poi magari risulta non essere vera, e direi che un buon 40% delle cose che scrivono i giornali italiani, riprese dalle agenzie che a sua volta riprendono dai tabloid inglesi, sono notizie palesemente false o comunque montate. Per esempio questa storia che abbia speso 65.000 euro in due mesi d'albergo, a parte che non è vera. No, ma poi questo... a me sinceramente frega niente, a molti fregherà, a me sinceramente frega niente che spenda come vuole i suoi soldi, poi si arrangi. Ma posso solo provare invidia, ecco. Posso solo dire che magari io ne farei un altro uso, però insomma, mi importa veramente poco. A parte il fatto che quei 65.000 euro se li avesse messi sotto il materasso o portati in un paradiso fiscale non sarebbero stati investiti localmente, ma al di là di quello, lui abita in una villa da 3 milioni di sterline, quindi sì. E l'affitta, quindi immagino che quello che spende mensilmente in affitto lui, molti campioni in Italia, non sia molto meno di 30.000 euro al mese, ecco. Sì, invece l'accoppiamento tra, in questo doppio viaggio delle italiane a Londra, l'accoppiamento del Milan con l'Arsenal fa paura a Wenger oppure ricorda come insomma, nel recente passato l'Arsenal abbia messo in grandi, anzi non abbia messo in difficoltà, abbia eliminato le squadre italiane? No, secondo me il fatto che l'Arsenal non l'abbia eliminato il Milan 3-4 anni fa credo sia abbastanza irrilevante, perché comunque di quel Milan sono rimasti solo due giocatori, anche l'Arsenal è cambiato tantissimo. Direi che forse preoccupa un po', appunto perché il Milan delle seconde classificate è probabilmente la squadra più forte, e in più il Milan ha tante individualità e l'Arsenal comunque è una squadra che fa giocare. Se uno pensa a Ibrahimovic, c'è questa grande sfida di attaccanti, no? Ibrahimovic contro Mertesacker e Van Persie contro Thiago Silva, Mertesacker, con tutto il rispetto, non sicuro. È a livello di Thiago Silva. Anche se noto che l'Arsenal gioca a un ritmo pericolosamente elevato per i vecchi rossoneri. Gioca a un ritmo pericolosamente elevato. Dico solo questo. Dalle tue parti che si dice invece del calcio italiano, che nell'anno della retrocessione delle Coppe Europee fa l'emplay, mentre l'Inghilterra sta vivendo, ma anche in maniera un po' contingente, una situazione di buio? Ma, del buio sul calcio inglese parlano poco, perché comunque sempre Premier League che tiene banco, eccetera, sì. Anche se accettano il fatto che Barcellona e Real Madrid sono di un altro pianeta. Devo dire che noi in Italia quest'anno, dopo anni di delusioni, c'è una sensazione che in Inghilterra che il calcio italiano è in crescita. Sarà perché alcune delle gare trasmesse qui, penso a quella tra Napoli e Juventus, la stampa gli ha dato un bel risalto e hanno raggiunto un buon pubblico. Sarà per via del Napoli in Europa, però comunque la sensazione qui in Inghilterra, ne parlano in molti, anche grazie, non so, a gente come Luis Enrique a Roma, che in Italia ci sia una specie di laboratorio di calcio, che quest'anno stanno succedendo delle cose molto, molto interessanti in Italia, che i club italiani insomma, che la Serie A in generale sia in netta ripresa, anche se pur secondo loro ancora molto lontano dalla Premier League e forse anche dai vertici della Liga. Un'ultima cosa, si scrive qualcosa della Juventus che è tornata prima in classifica in Italia? Sì, anche la Juventus, oltre ad aver avuto lodi sperticate per lo stadio nuovo, sì. Anche la Juventus si sta rifacendo una reputazione qui in Inghilterra e credo che piace molto Conte anche per il suo modo di gestire la squadra, per il suo atteggiamento, per alcune sue battute, e quindi diciamo, anche se ovviamente non essendo in Champions della Juve si parla meno, comunque chi segue il calcio internazionale sa che il ritorno della Juve è una cosa positiva per tutti. Certo, c'è un ascoltatore che vuole sapere se Vias Boas ha veramente rischiato il licenziamento. No, non credo, no, non credo, non adesso quantomeno. Abramovic ha venduto, o forse Vias Boas ha venduto ad Abramovic l'idea che questa squadra verrà rifondata, diventerà un mini Barcellona, che lui sarà l'uomo con l'accetta che elimina tutti i veterani, a cominciare da Lampard, cioè farà tutte quelle cose che Ancelotti non ha potuto o voluto fare. In realtà la sensazione è che anche se dovesse fallire quest'anno, e lo ricordo, il Chelsea attualmente è quinto, anche ieri ha avuto un pareggio deludente con il Wigan, eccetera, probabilmente lo terranno un altro anno, anche se, bisogna dirlo chiaramente, molti tifosi rimpiangono, e credo giustamente, Ancelotti. Grazie Gabriele, grazie, buon lavoro, a presto. Saluto a tutti. Grazie Gabriele Marcotti da Londra, corrispondente di Stampa e Corriere dello Sport. Io torno invece agli ascoltatori da Bari a Milano. Antonio, buonasera. Buonasera. Senta, io a proposito di... Antonio da Bari non è Sant'Antonio, vero lei? No. Quello ben noto. Magari. Senta, io volevo parlare a proposito di Inter. Sì. Non mi vede assolutamente d'accordo la sua analisi sul gap tra Inter, Juve, Udinese. Io ho visto sia la partita con Udinese che Juve, non mi è sembrata tutta questa differenza. Poi se penso che attualmente nell'Inter non c'è Schneider, che Maicon non è Maicon, che è appena rientrato, altri giocatori tipo Thiago Motta e Stankovic non hanno per nulla giocato e sono, diciamo, rientrano nell'infortunio. Quindi tutto questo gap tra Inter, Juve e Udinese, forse il Milan è un gradino superiore, però le altre non le vedo così superiori all'Inter. Neanche la Juve. Nemmeno la Juve la vedo così superiore. Ho visto Inter-Juve e non ho visto tutto questo. Sull'1-1 c'è stato, voglio dire, la Juve ha segnato su un contropiede, ma prima del contropiede l'Inter ha mancato due grandi occasioni. Sì, ricordo, lasciando stare i singoli episodi e magari anche quel confronto, dico che da allora la Juventus non ha fatto altro che crescere e comunque quella partita l'ha portata a casa. L'Inter invece non si è mosso di un millimetro. È vero, ha avuto tanti infortuni, però insomma ci vuole anche un bello sforzo di fede e di fantasia per non vedere l'Inter di queste ultime partite, dove pure ha portato a casa il risultato. Ci vuole un bello sforzo di fantasia per vedere questa squadra a livello di chi la precede su tutte, Milan e Juventus. Secondo me è una squadra che sta per l'appunto dando quello che può, poi rientrerà Schneider. Sì, quanto dura Schneider? Boh, è un giocatore che comunque è a rischio. È un giocatore che sente di aver finito comunque probabilmente la sua carriera interista, perché quello che è successo in estate lascia il segno, vale per Schneider, ma vale anche il discorso che facevamo prima per Gilardino. Quando un giocatore va così vicino al trasferimento, la testa è da un'altra parte. È l'anno degli europei e sappiamo bene tutti i discorsi che si possono fare e che sono stati fatti in passato e che sono, insomma, vecchi come il cucco di giocatori che con in testa l'europeo, con il dolorino, preferiscono risparmiarsi. Insomma, ci sono molti discorsi. Schneider è vero, è fuori, Maicon deve recuperare, Thiago Motta ha giocato abbastanza, Stankovic è titolare più o meno di questa squadra e comunque sono anni che ha dei problemi. L'Inter ha un centrocampo, ma ne parlavamo anche prima con Mirko Graziano, che ha serissimi problemi di dinamismo anche quando questi stanno bene. Chi è stato preso per rinverdire la squadra non mi sembra sia all'altezza di questi giocatori, che comunque sono stati grandissimi giocatori. Dunque, torno a dire, per me ci vuole un bello sforzo di fantasia per vedere l'Inter in corsa per lo scudetto. Bruno, provincia di Milano, buonasera. Buonasera a lei, grazie per avermi collegato. Grazie a lei, dica. Senta, no, io volevo spezzare una lancia a favore di perché ho sentito dire che insomma oggi ha sbagliato più del dovuto. E devo dire che io ho visto la partita e devo dire che il gol mancato, diciamo, sul passaggio di Pepe, devo dire, secondo me, che l'errore è più di Pepe che non di Del Piero, perché ha ritardato nel passaggio. Sì, e Del Piero ha ritardato di un'ora l'appuntamento col pallone, però. Non lo so. Io credo che se la palla gli arrivava un attimino prima, basta veramente poco per spingerla dentro. Sì, però guardi Bruno, spezziamo tutto quello che... Questa è la mia impressione televisiva. No, ma va bene, però spezziamo tutte le lance che vuole, spezziamo tutto quello che vuole, però se si legge la partita di Del Piero oggi, nel complesso, al di là di quell'errore, che per un giocatore del suo livello è comunque un errore grave, non penso sia stato un errore di Pepe, Del Piero si è fatto rimontare da un giocatore che aveva alle spalle, quindi... questo denota anche una certa mancanza di dinamismo. Torno a ripetere, è difficile uscire dalla naftalina e fare le uova, molto difficile, però una ragione ci sarà anche se Conte propone Del Piero con il contagocce come sta facendo. Quindi poi spezziamo tutto quello che si vuole, la prova complessiva di Del Piero di oggi non è stata quella di un giocatore quantomeno in condizioni brillanti. Confermo quanto si stava dicendo prima con Gabriele Marcotti, e il City sta conducendo 1-0 sull'Arsenal, gol di Silva dopo 8 minuti della ripresa, siamo qui al 66esimo di gioco. Filippo Maria Ricci, buonasera. Buonasera. Buonasera. Troppo facile. Troppo facile, troppo, guarda, facile. Ma peccato che non sono andato a scommettere, perché non ho questa abitudine, però era un pronostico talmente semplice da... Vabbè, cioè, il Santos è arrivato a metà classifica del campionato, ma lascia stare, però... fosse anche arrivato primo, era 4-0 lo stesso per il Barcellona, ma perché te li vedi i brasiliani che vanno a giocare con il coltello in mezzo ai denti a chiudere gli spazi del Barcellona accettandone la superiorità? Ma in che film? Ma che sport è? Non si gioca così il calcio. Ma figurati. Siamo brasiliani. E infatti pam pam pam 4. Vabbè. Però guarda, io dico, in tutto questo c'è un'onestà di fondo da parte di Neymar, secondo me, che ha sempre detto che Messi è il migliore, Barcellona è la squadra migliore, e lo sa, cioè lui secondo me con i suoi 19 annetti già ha capito, sì, che sì, non è difficile, sarà anche giovane, ma non è scemo. No, è onesto, ma perché... benissimo. Non è come altri che sento, sai, questi che sono un po' più vicino a dove lavoro io, no? Per cui, no, si riempiono lì, sanno, fanno, disfano, e poi in realtà perdono lo stesso. Lui era stato molto onesto, secondo me, nella sua disamina della partita. E così è andata, appunto, via. Non penso che nemmeno si strapperanno i capelli, è andata così, ci si riproverà e via andare, insomma. Ennesima. Gli altri poi, ma se tu, cioè, abbiamo a che fare veramente, il dibattito è apertissimo, insomma, la miglior squadra di tutti i tempi, sì. Cosa gli devi dire? No? No, nulla, se non che è il 13° titolo di Guardiola e non lo su so 16, qua, attenzione, sì. Io potrei anche dire, io metterei 14 su 17, perché anche vincere il campionato di C2 o la seconda B, come qua, non è la terza, scusami, non è male, no? No, cioè lui no, ogni no, volta no. Che, cioè, comincia un torneo, ne ha cominciati... quanti sono? 17? 14 li ha vinti. C'è chi ipotizza una carriera politica per Guardiola. Io lo comprerei subito come straniero in Italia. No, senz'altro, senza dubbio. Però la carriera politica, se la fa, la deve fare in Catalogna e basta. Insomma, ovviamente, insomma, è la sua terra. Però io ti volevo stuzzicare dicendo che però questa settimana io ho ascoltato De Visu proprio dal vivo, una persona che diceva che al suo 2011 dava quasi 10. Sì, so anche chi è. e se vinceva i 7 Clásicos che ha giocato, ma quanto si dava? Beh, Mourinho si sarebbe dato 15, no? Sì, esatto. Ma fa bene, un punto che non c'è. Ma fa bene a dire così. Ma poi va, ieri sera, alla fine, guarda, prendi le bastonate sulle orecchie dal Barcellona, ieri sera vai a Siviglia per un ennesimo capitolo della pochezza comunque del campionato che stai seguendo, ne segni 6, chiudi in testa l'anno in testa, esatto, al Barça, esatto. E ciao. o no? Sì. No, ma infatti va così. E poi Cristiano Ronaldo che viene ai microfoni della televisione appena segnato tre gol, una faccia come se gli avessero rotto il ginocchio con le mani, e dice: no, così sì, ho chiuso un sacco di bocche, dice: chi mi critica non sa niente di calcio, Questa è l'atmosfera che si respira da questa parte del fiume, perché quegli altri sono talmente forti che ti mandano fuori di testa, poveretti. Ma la settimana com'è stata dopo la bacchettata barcellonese? Beh, conta che la settimana è cominciata quasi subito con il pranzo di Natale officiato dal Papa Florentino Perez, sì. E lui dice: no, quest'anno abbiamo invitato anche quelli che non ci vogliono bene, proprio, no? Volevo se bene a Natale, un messaggio di pace, capito? Anche quelli che non ci vogliono, sono qua e va bene. E dopodiché ha detto che insomma che la finale che hanno vinto di Coppa del Re, secondo alcuni, è la migliore della storia. Si vede bene perché insomma. Perché l'hanno vinta? Perché non è che di questi tempi vincono poi tanto, Esatto. E poi ha detto che ovviamente la scelta migliore, una delle scelte migliori che ha fatto nella sua carriera, e non ha fatto il distinguo carriera da imprenditore e carriera da presidente, è stata quella di prendere Mourinho. E quindi come vuoi che sia andata questa? E solo una curiosità, ha detto la partita di sabato, cioè non si nomina mai, né il Barcellona né la parola classico, già non si deve più usare. La partita di sabato. Non escono, non escono Filippo, non escono da questo tremendo complesso di inferiorità, deve succedere qualcosa, cioè non so, suicidio al Barcellona. Forse l'avevo già detto, lo voglio ripetere, ma il Real Madrid vince la Liga perdendo anche il prossimo classico. Sì, può essere, no, ma può essere. Allora, hanno capito che comunque la rabbia che hanno contro le altre squadre vale e gli basta, quindi vinceranno tutte le altre partite. Certo, basta arrivare alla sfida con il Barcellona a 4 punti, no? Esatto, gestisci, sì, esatto. e poi vinci tutte le altre. Un'altra mazzata, però rimani a più uno e poi vai anche alla meta. E poi giochi in casa con il Siviglia la partita di ritorno e vinci 9-0, perché esatto, così è. Esatto. No? È così. Non è un calcolo malvagio, è per quello che Mourinho si è dato quasi 10, se arriva al titolo della Liga si dà 11. Grazie Filippo, un abbraccio. Grazie a voi. Grazie Filippo Maria Ricci, ciao. Torno a parlare con gli ascoltatori con piacere, 800 24 00 24, numero verde, Stefano da Roma. Buonasera, senta, volevo dire, Diga. Questa Roma come la vedete sbancare, sì, possibilità, Napoli il mercato, grazie. Grazie a lei, molto rapido, sintetico. A Napoli sarà una partita mica semplice questa sera per la Roma, che sta vivendo comunque anche in un clima piuttosto difficile, no? le polemiche su Totti, Luis Enrique che difende ovviamente il suo capitano, insomma c'è un clima da ricostruzione. La partita di stasera sarà estremamente complicata, io credo, per la Roma, che è meno attrezzata rispetto al Napoli. Prospettive di mercato non ne avrei idea. Sinceramente non ne avrei idea, perché comunque, torno a ripetere, a gennaio non fai interventi strutturali normalmente, non credo che la Roma voglia prendere adesso qualche giocatore chiave per il futuro. Sono curioso di vedere, di capire se ci sarà la forza e quanta forza ci sarà, quanta voglia ci sarà per andare avanti con questo progetto. Anche dovesse arrivare stasera una sconfitta a Napoli, anche se la classifica dovesse diventare ancora più pericolosamente deficitaria, cosa che non accadrà probabilmente, però è chiaro che i risultati sono, cioè il segno, che il colore vicino ai risultati della Roma è rosso, e non c'è, senza il giallo, e non c'è dubbio su questo. Trovo comunque la Roma una squadra interessante, perché al di là di questo progetto un po' utopico, interessante ma un po' utopico di Luis Enrique, i giocatori che sono stati presi sono, penso, buon materiale per costruire il futuro. Anche lì, prima o poi servirà uno strappo con il passato, rappresentato fatalmente dal grandissimo capitano, perché come per Del Piero un ciclo deve finire probabilmente, difficile che un ciclo possa innestarsi su un altro, dovrà finire l'era Totti e un'altra ne comincerà, non credo con Luis Enrique però sinceramente. Andrea da Milano, buonasera. Sì, buonasera dottor Genta. Dica. Sì, volevo fare alcune considerazioni sul Milan, riallacciandomi a una considerazione che aveva fatto poco fa lei, molto giusta, riguardo l'Arsenal. L'Arsenal secondo me va a un ritmo molto pericoloso del Milan. molto pericoloso. Il Milan è, secondo me, un'ottima squadra, io sono milanista fregattato, è un'ottima squadra, ma secondo me troppo compattata, ha un centrocampo che va più piano, secondo me dovrebbe essere più veloce per tornare a quei livelli, insomma, a cui il Milan era abituato in Europa per giocarsela alla pari. Andrea, ho capito, però coi nonni è difficile correre, mi permetta, coi nonni è difficile, no, il centrocampo del Milan, onestamente, anche lì va un po' il discorso fatto per l'Inter, anche se le due situazioni sono profondamente diverse. Coi nonni si può giocare d'esperienza, però è difficile andare di corsa, e allora se presenti un centrocampo di Van Bommel, Seedorf, Ambrosini e questa gente qui, Nocerino che è quello che ne ha e si vede, no? Mi sembra che sia piuttosto lampante. Gli altri fanno una grandissima fatica. Nocerino e Aquilani sono, per fortuna, sono stati innestati nel mercato estivo, se no probabilmente il Milan non sarebbe lì dov'è. Alfredo, no, da Bari. No, dica Andrea, dica. No, dico, sono assolutamente d'accordo con lei. Due 36enni, ultra 36enni non si possono concedere, soprattutto in Europa. E quindi è normale che se il centrocampo è comunque il reparto che determina anche la velocità, che determina il modo di giocare, che determina l'anima della squadra, è un po' difficile pensare ad una squadra di corsa con giocatori di questo tipo. Il Milan fa questo tipo di gioco perché è il gioco che sta nelle corde dei suoi centrocampisti. C'è chi scrive: Boateng si è buttato, non pensavo fosse uno che lo facesse. Beh, si è buttato sì, o quantomeno è caduto per terra, perché anche su questo discorso delle simulazioni, secondo me non era rigore né in cielo né in terra quello che è stato concesso ieri sera al Milan. Il portiere del Siena ha fatto di tutto per levarsi di mezzo, non ci è riuscito, c'è stato un leggero tocco, peraltro fortuito, del ginocchio del portiere sul piede di Boateng, però voglio dire, non era rigore, però anche sulle simulazioni, quando un giocatore, soprattutto di quella potenza fisica, arriva ad un impatto presunto tale con un avversario che cade per terra, è quasi fisiologico. Quindi, insomma, non era rigore, però vorrei quasi assolvere almeno parzialmente Boateng, che pure non ha fatto nulla per rimanere in piedi, però sul fatto che il giocatore cada per terra, anche se il contatto è minimo, quando arriva lanciato in corsa, quello è da valutare, insomma, quello non è necessariamente un intento molesto. Alfredo da Bari, buonasera. Alfredo? No, niente Alfredo da Bari. Gianni da Milano, allora stiamo a Milano. Gianni? Salve, buon pomeriggio. Senta, io volevo chiederle, a suo avviso, quale potrebbe essere, chiaramente nel girone di ritorno, l'evento, diciamo, cardine che potrebbe far pensare a una Juve campione d'Italia alla fine del campionato. Nel senso, io sono d'accordo con lei, in un duello a due con il Milan, indubbiamente a livello tecnico il Milan è più accessoriata, anche più esperta rispetto a certi giocatori che ha la Juve. Mm. Ma considerando il carattere che Conte in qualche maniera sta dando al gruppo, nel senso che se guardiamo a un anno fa, certe partite la Juve le avrebbe perse alla grande, quest'anno dà un'idea di essere quantomeno più compatta, più quadrata, curano tutti in maniera molto più efficace rispetto a un anno fa. Ecco, a suo avviso quale potrebbe essere il momento decisivo in cui si può pensare a una Juve che possa fare la tirata finale? Io credo che i mesi di gennaio e febbraio saranno decisivi, ma come lo sono quasi sempre, quindi non sto dicendo una cosa rivoluzionaria. I mesi di gennaio e febbraio, dopo la sosta natalizia, ci sarà un mercato di mezzo, quindi credo che saranno i due mesi in cui, al termine dei quali avremo certezze maggiori, anche se non definitive. Se la Juventus riesce ad uscire da quei due mesi, grosso modo nella posizione in cui si trova, punto più punto meno, poi non sarà così importante essere davanti di uno o due punti o dietro di uno o due punti, io credo che in quei due mesi, poi sarà la ripresa delle coppe, capiremo qualcosa in più. Non so individuare un momento specifico o una specifica partita, al di là di un'altra banalità, cioè che i confronti diretti comunque valgono doppio. Alfredo da Bari, vediamo se adesso ce la facciamo. Sì, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, io sono tifosissimo della Roma e ovviamente grande stimatore del nostro capitano, Però ecco, io vorrei fare una considerazione. Credo che sia arrivato il momento che prenda esempio da un altro grande capitano, che è Alex Del Piero, nel senso che ormai Totti deve capire che il suo posto è in panchina, perché ovviamente una certa età ce l'ha. Beh, Alfredo, però a Del Piero gliel'hanno fatto capire dicendoglielo, cioè non ti rinnoviamo il contratto, ciao e grazie. Sì, sì, quello Totti sì, invece, Totti invece ha ancora un contratto molto pesante. Ha un contratto, ecco, sì, quello che è eredità della proprietà precedente, che chiama altri soldi anche per il futuro, cioè per una prospettiva da dirigente. Detto questo, però Alfredo, mi permetta, mi sembra che Totti, comunque, se sta bene, naturalmente sia ancora un giocatore molto prezioso, molto importante per la Roma, cioè non lo rottamerei così a cuor leggero, cioè mi sembra un giocatore in grado di dare ancora parecchio, non so per quanto tempo, anche perché il tassametro corre, gli infortuni sono tanti, eccetera, eccetera, eccetera. Però detto questo, mi sembra un giocatore ancora un po' più determinante in questo momento rispetto a Del Piero, davvero alla fine della sua meravigliosa carriera. Quindi aspetterei a rottamarlo come lei vuole, se mi permette. No, per carità, io non voglio rottamarlo, allora, per carità. Che credo io è che, diciamo, debba rendersi un attimino conto, perché, diciamo, Totti è diventato per come lo vedo io, un giocatore abbastanza statico, cioè che rimane lì, fa fatica nel rientrare a dar una mano al centrocampo come faceva prima. In alcune volte sembra che la Roma giochi con un uomo in meno, quando invece prima Fra Francesco era un tifone nel campo, andava avanti, indietro, andava manforte al centrocampo. Mi pare anche qui però le dico che anche con Ranieri, dove ha giocato alcune stagioni straordinarie segnando una valanga di gol, fosse stato un po' esonerato da questi compiti difensivi, faceva grosso modo il centravanti tattico con Spalletti anche a maggior ragione, ed era qualcosa che funzionava, che era una meraviglia. È chiaro che col passare degli anni l'energia diminuisce, gli infortuni crescono, come ho detto prima. Però piuttosto ragionerei sul fatto che giocatori di questo tipo comunque hanno un peso sull'opinione pubblica interna che è notevolissimo. Quindi è chiaro che Totti è condizionante per l'allenatore di turno, è condizionante per la dirigenza, è condizionante per la tifoseria, insomma rappresenta per chi allena comunque una situazione con la quale confrontarsi, con la quale fare i conti, questo sì. Mimmo Varese, buonasera. Buonasera Genta. Dica. Volevo parlare del mercato dell'Inter. Mi sembra che quest'anno voleva prendere un giocatore del Brasile, un difensore. Non mi ricordo il nome, sta prendendo un... Però volevo dire, per me ha bisogno più di un attaccante, perché io vedo sempre l'Inter, ma gli attaccanti ormai non segnano più. Vieto sono arrivati Forlan e Zarate mi sa che è scomparso. Forlan non si sa cosa dopo questo infortunio. E Mimo, però agli attaccanti bisogna dargli qualche pallone, perché non mi sembra che ne arrivino tanti. Pazzini comunque è uno che ha l'età giusta, che ha le qualità giuste, è un uomo gol. Volevo dire, io vedo le partite dell'Ascos. Mi ricordo che tu con i suoi guizzi partiva da fuori Ari, usciva a combattere, riusciva a fare qualche... Però questi qua... Mimo, ce n'è uno, è un giocatore molto diverso, era un giocatore in grado di crearsi comunque un gol da solo. Lei se lo ricorda benissimo l'anno scorso quando ne ha fatti una caterva, pur all'interno di una squadra che già aveva parecchi problemi. Insomma, abbiamo ragione un po' tutti, cioè voi che dite c'è bisogno di un attaccante, c'è chi dice c'è bisogno di difensori, c'è bisogno di centrocampisti, c'è bisogno di tutto questo per l'Inter. È un centrocampo, quello dell'Inter comunque, che non produce più. Sneijder è un giocatore fondamentale per una squadra pure in difficoltà, perché è l'unico in grado di creare qualcosa in un centrocampo molto bloccato, che va a ritmi lentissimi e che quindi non riesce mai ad innescare gli attaccanti. Poi è chiaro che Milito 2 anni fa avrebbe cavato dei gol anche da questa situazione di vuoto pneumatico, adesso non ci riesce più. Pazzini è un giocatore che deve essere servito in un certo modo, per cui devi creare delle palle gol, poi ci pensa lui a buttarle dentro. questa squadra non riesce a produrre una quantità di occasioni sufficiente per mettere sul banco degli imputati gli attaccanti, secondo me. Rossano, provincia di Ancona, poi ci fermiamo. Buonasera, dottor Genta. Buonasera. Sono tifoso della Juventus. Vorrei fare una domanda riguardo, dato che sei vicino al mercato di gennaio. Io penso che il migliore acquisto della Juventus, secondo me, sia Quagliarella. Non vorrei il suo pensiero proprio su Quagliarella, perché secondo me lo reputo un grandissimo giocatore. Sì. Perché è una grande seconda punta, secondo il mio parere. Ma un grande acquisto per la Juventus sarebbe quello di disfarsi di un po' di Zavorra che sta dalle parti del campo, della panchina, della tribuna più spesso. E credo che qualcosa riuscirà a fare. Quanto a Quagliarella, prima ho sentito un ascoltatore dire... Prandelli già in difficoltà, diamoci piano, insomma è tornato adesso, oggi è tornato a far gol dopo un anno, dopo un infortunio tremendo, dopo tanto tempo passato in panchina, perché ripeto, può essere un valore aggiunto certamente alla Juventus, può allungare moltissimo le rotazioni offensive di Conte. Da lì a dire Quagliarella sarà il nuovo protagonista della Juventus, ci andrei piano, anche perché come caratteristiche un giocatore come Matri, secondo me la Juventus è letteralmente insostituibile. Quagliarella può dare qualcosa, quanto credo lo scopriremo appunto nei mesi cruciali di gennaio e di febbraio. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Roberto Scaltritti in regia, ci sentiamo dalle 8:30 alle 9 per il basket.